se avevo mezzo addormentato, non sai che l'ho mangiato, alle 4. E io ho pranzato, poi mi sono lavato, mi sono messo a lavare giù botte, l'ho macchiato di grasso. È uscito me? Penso di sì, sono offeso. Mi sarà uscito, boh. Ho un giubbotto nuovo, ho capito. Io ho un giubbotto, vabbè, ce l'ho, veramente, è smanicato. No, io gli ho dato lo 4. Ma non metterti roba vecchia per venire, basta, tanto non ce ne voleva il giubbotto. Non ce n'ha bisogno. Ce n'ha caldo oggi. Mi trovo io dei tre pantaloni al bianidoso io. Ma io ce l'ho roba vecchia, buonasera a todos. E tu vieni sempre tutto cambiato, ma c'è la buona della cravatta o la britella. Io sono venuto con i pantaloni strappati. Io c'avevo quelli dell'altra volta, li ho lasciati apposta sporchi, fatto detto a mia moglie non li pulire. Va bene, fatta è fatta. Tu che sta mettendo freddo, porca paletta. E adesso può fare anche freddo per piazza della Antena. Può anche piombo, non se la fatti nuda. E tu Luno, non l'hai messo il cavo? No, che attacca, devo organizzare adesso per mettere il cavo. Se hai bisogno di usare, basta che fischi, anche perché poi avrò bisogno di te. Ho detto anche a Massimiliano, poi dovrò anche a Natale. Devo abbassare il sistema, smontare le direttive, se non ne vogliamo bene, non che. Se vado a casa mi trovo questo palco antenne a rasura da smontare, cazzo, un casino. Ah, lo sai, se posso, non ce ne ho problemi. Ehi, ci organizziamo, non ce n'è problema, ma se venga anche Andrea, adesso vediamo. Ci vuole gente un bel potente, e che non abbia paura. Lì già si lavora bene, però siamo più alti, quindi bisogna stare attenti. Bisogna abbassare il sistema, poi piano piano girare il rotore e smontare tutti gli elementi. Capito? Non è difficile, bisogna stare attenti e fare le cose piano piano. Va bene, va bene. No, io ho mangiato subito, mi sono lavato subito così veloce, poi poco fa ho fatto una doccia a calda, faceva freddo. E adesso mi sono seduto qua, c'è la radio, ho già atteso la televisione, anche perché c'è la Juve stasera, sempre al primo, Coppa Italia, ieri abbiamo visto l'Inter. Stasera c'è la Juve contro l'Udinese, alle 8:30 però, quindi è l'ora di cena, gappa gappa. E ancora ce n'è buona. E adesso perfetta, perfetta, uno appena appena si muove, visto? E i fatti sono nici, giusti. Beh, oggi ho bevuto a Terranova, Gabo Novo, tutto nuovo, l'impianto quello è nuovo, fatto a nuovo, tutto a nuovo, è chiaro che i risultati ce li hai, è normale, no? Se li avessi, se mettevi il cavo grosso, vedevi la ricezione che ci avevi, guadagni molto, molto di più sia in ricezione che in trasmissione. E ti dura molto di più il cavo, naturalmente. Vabbè, comunque già va bene lo stesso, non c'è problema. Oh, guidato, mi è durato 17 anni, qua. Già, vabbè, ehi, Calvuglia, ci sentiamo, è interessante quello. Ehi, già non ti siamo a far rendere, no? Ma va bene così. Ok. Mamma mia, sfumare la schiena, va. Se non ci fosse stato Luca a salire sopra, un casino. Meno male che c'era lui, e Ginnico, e noi siamo rimasti sotto, là. Comunque, abbiamo fatto. E prende Ugarie. Diciamo che, non dico che sono allenato, ma va bene, dai. Ho fatto la parte mia. Ma infatti, no, io già mi appendo, non è un problema, però è meglio oggi che l'hai fatto tu quello su, perché veramente a me fa male un bella schiena. Avevo anche difficoltà a inchinarmi, a legarmi tutti i tiranti, a fare le altre cose, perché mi fa male un bella schiena. Cazzo. Non mi ho preso medicina ieri, però stanotte non la prendo la bustina, non me la fotte nulla, se no non riesco a muovermi. Vai già. E io me l'ho presa stamattina prima di fare i lavori, prima di venire su da. Fare i lavori è una cosa, una parola troppo grave. Prima di venire su l'ho presa perché era dolore da non poter stare. Ma hai visto com'ero? Si secondo come mi muovo, se mi giro viene subito un dolore fortissimo, la fitta proprio da crepare. Infatti tu non dovresti fare nulla, però ti metti a inchinarti a fare, tu devi stare lì perché ci vuoi, e non è che sale qualcuno, ci vede lì, c'è voi che vi ha autorizzato, solo quello dovevi fare, tutto il resto già ci pensavamo noi. Vabbè, oramai è fatta, non stiamo a fare così o su questa cosa. Va bene così, più che ottimo lavoro. Oh, yeah, yeah, yeah. A me lui non deve andare a luogo? A riposo stasera? Ma a me ha detto qua. E io? Cosa? Ti ho detto, non devi andare a nessun posto stasera. Assolutamente, lo vado via presto da qua. Perché domani mattina devo salire su a Contini. A Contini? A donare sangue? E allora? E io, vabbè, mi li ho fatti 3 mesi fa le analisi. Ce li ho fatti mia moglie. Poi vediamo se poi la chiamano. Anche lei si toglie questo problema perché non ce la fa più a camminare. Poi il 5 di febbraio c'è la visita a Rezzedo, per l'occhio. Non avevamo tutti i problemi. Oggi Giulia aveva la visita lo stesso, speriamo sia andato tutto bene, ancora non si è sentito. Tutti messi bene siamo. Ma non impidare. Davvero? Anni fa quando ci trovavamo in frequenza parlavamo di tutte e tranne le malattie, che stava di da coipi, a coipi, di l'altro a coipi, per carità, guarda. E vabbè, gli anni passano. E gli acciacchi aumentano, per carità. L'interessante è parlarne, vuol dire siamo vivi. Ah beh certo, l'importante è parlarne, sì. E ci mancherebbe altro. Quando ne parliamo, già va bene. Cazzo, no, che ricarga già una, come si dice, siringhe di Barbara Duscia e di Maria De Filippi. Per carità di Dio, ma come io faccio delle visioni nobili, io mi sto guardando che anch'io. Te la fanno assorbire, anche a casa era così. Carta beautiful, ghisu, ghisu, poi 100 vetrine. E adesso quelli sono passati. Non dove Barbara Russo e Maria De Filippi, il grande fratello 24/24, dalle 9 del mattino, media 7 extra, in diretta. A bella che ti guarda imbecilli, se ne andare a travagliare invece di sfruttare la televisione per guadagnare soldi, gente fallita, cazzo, Michele Cucuzzo, pensionato dalla RAI, cazzo, è andato a Canale 5 a fare un grande fratello VIP, cazzo, ma dimmi, Antonella Elia, cazzo. Ma ti pare che bella che ti guarda imbecilli. È poco invecchiata Antonella Elia, la mattina presto si vede bene quando non c'è trucco, oh yeah. Io vabbè, una bottarella già si può dare ancora. È un anno più piccola di mia moglie, ha 56 anni. Sì, sì. E vabbè, dai. Già si può dare, sì, ma è vecchiato molto, dai. Quando è truccata non si vede, ma è giusto. Cioè, le fanno un poco belle quando le truccano. Ma cosa degli mangagliuca? Sì, se ne mangagliuca. Un appoggio di cornicione, senza bencerina. Ah, lui, una pugiata di cornicione senza bencerina. Anche. Allora, gli ha dalla papparetta, mi è scritta con la bretella. E allora? Ah, si può comprare la sedia nuova, ma comoda, mi. Quella in... Non è pelle, pelle, comunque. Non me lo sto fatto di quella stoffa. Quella stoffa è arrivata a Massimiliano. Io ho preso questa proprio dall'ufficio, bella. Sto un bel comodo. Luca! Ma che antenna devi mettere sul tetto? Un radiale. Un radiale. Un radiale di che cosa? Un radiale di matto qua. Che me l'hai ricordato stamattina, Luca? Sto dietro la porta ce l'ho. 2,75 m in figura di vetro, che è il centrale di una Grand Play in 5 ottavi. Se mi sono ricordato a scendertelo, cazzo, porca miseria. Sì, già, tanto non devi scendere da Gianni, magari vi chiami e me lo dai qua. puoi fare anche una boomerang, guida. No, lei cambia quello che c'ha, che è più corto. È uguale a quello lì, solo questo è 2,75. È grande, grosso, alto. In fibra sempre, no? È già filettato sotto. Non so se ce la mette un riduttore. Qualcosa le avvita quello lì. Esce molto, molto meglio. Capito? Signor Lumi, hai detto che sistemo quella, la mantova, col piantone lì, dal panattolino. Mi ha detto come fare, lo foro dove c'è il cavo attaccato, lo risaldo e le metto una contropiattina con l'occhiello e il bulloncino passante, lo faccio esterno e rimunimugissami, a voi. Aspetta, no, quale sta? Tanto va, quella che abbiamo smontato stamattina, quella c'è, me la porto via, la pulisco tutta, la riassemblo, fascette nuove, il piantone che c'è il filo staccato all'interno, capito? Perché quello che ho saldato io è saldato giù, se l'ho fatto nuovo, ho messo anche il connettore nuovo, quindi è quello che c'è su che è disaldato sicuramente, e glielo faccio esterno con l'occhiello, capito? L'occhiello e il bulloncino passante, anziché se è rifrettato dall'interno, glielo faccio esterno col bulloncino passante e l'occhiello. Si prova, se va bene, montiamo quella. E se no il montante è quello della mia, va bene anche senza radiale, perché andava bene quando ce l'avevo io. Anche, ma tu quello ce l'hai buttato già? No, ce l'ho io quello. Al limite si può fare quello lì. Tolgo la spirale, hai visto dove si è rotto l'occhiellino della spirale? Quello si taglia col seghettino a fine, si rischiaccia, si fa il buco e si rimette al suo posto con il bulloncino nuovo. Boh, qualche cosa dovresti venire a darmi una mano, Claro, anche da solo è un casino, si può anche fare. Però vabbè, non penso di avere problemi comunque sia con questi qua. Il cavo c'è, come mi ha dato già, usiamo quello. Si può anche fare, perché no? Vedi un po', organizzati. E io vengo a fare, se lì sei già pronta. Se la vuoi scelta radiali, sai cosa facciamo allora? Le metto quattro chielli e le mettiamo quattro pezzi di filo per radiali, come piano di massa, capito? Funziona lo stesso, a misura dei radiali, quattro pezzi di filo nero, di filo, quello dai che dentro all'interno c'è il rame, e mettiamo quattro pezzi di quello, però in bando che scendano, in modo che faccia come piano di massa, funziona lo stesso. Come volete, perché questo qua è un radiale, allora io quando l'ho piazzata c'era 1 e 2 così, 1 e 1 e 2, adesso non so forse come ha preso acqua, stanno salite, avanti il black. Sì, mi ero nel frattempo allontanato. Ciao Luca, grazie per avermi fatto entrare. Ciao Claudio e ciao Gianni. Ciao Gianni, adesso sì che sei tu. Va bene, dai. Lo sai che mio nipote mi ha confermato che me la riporta l'antenna originale, la Game Master. Alla prima passeggiata che si fa qua, me la riporta. Quindi almeno mi metto quella originale anch'io. Magari la metto al posto della mantova tubo dove c'è la mantova tubo, così è piazzata una volta per tutte come se... Avanti Gianni. Aspetta, scusa, già là. Giulio, l'antenna è bella perché è fatta carina come antenna, diciamo. Però cioè, rimane storta, anche senza avverso, rimane piegata come antenna. No, non credo. Forse perché ci sarà vento, si piega perché c'è vento. È molto flessibile. Va bene. Chiaro, il segnale è suo, quello di Gianni. Per cui adesso va benissimo, alla grande. Alla grande Luca, tranquillo. D'altronde così l'hanno fatta perché vuol dire che va bene. Però ma sì, io non si sarebbe imbattardito facendo un'antenna che non funziona così, facendola pagare quella cifra. Avanti già. Ah, senza dubbio, avanti già. Ehi, voglio vedere come arrivo così, se va bene lo stesso, sto guardando le stazionali e vanno tutte bene. 1 e 2. Allora, metti 9 più 30. ero grido, no, va bene, già, stai tranquillo, che no. Poi non c'è niente a regolare con l'antenna, ma piatti e stai andando, no, non c'è niente a regolare. Per cui sei tranquillo. E poi leggera, non soffia, non soffiano le radiali, no, non fischiano, volevo dire, no, non fischiano le radiali, va bene, dai. Ah, va bene, hai il tuo segnale tranquillo e pacifico, e sei di nuovo tu. Andate qua. Ascolta, ma perché? Ma non ha, cioè non fischia l'antenna, nonostante vabbè i radiali che non ci sono, eccetera, col vento non fischia, visto che è PVC, perché Sandro lamentava questo fatto, che fischiava lì da lui. Da te ha mai fatto questo tipo di problema? No, no, non fischia, no, non fischia qua. Quello che fischiava erano i radiali della moto Maturbo, quello che fischiava che era una tragedia, la notte, cazzo, si svegliava proprio dal rumore continuo quando c'era vento forte, naturalmente, se poi il vento non era molto forte allora già andava bene, ma se c'era vento forte, perlomeno io la sentivo perché l'antenna era installata perpendicolarmente, esattamente nella stessa parete dove io ho il letto, per cui adesso o perché si trasmetteva attraverso il letto, che adesso il fatto sta, la sentivo in una maniera impressionante, e allora ho avuto, diciamo, un pochino di coso, insomma, forse sa mai, ossia che magari quelli di vicino la sentono anche loro e poi vengono a rompermi le scatole, e tu lo sai, se vengono una volta a rompermi le scatole e poi continuamente te le ritrovi addosso. E allora l'ho tolta, fatto là, la tolgo, non se la parla più, e così ho fatto. Sì, mi pare aver registrato il break, forse Nicola. Una cosa volevo dire, visto che state usando tutte e due la stessa antenna, quanto sono a vista ottica sia con te che con Gianni. Gianni, metti la portante senza parlare. Mettila tu, Giulio. Sentirai la ventola dell'alimentatore. Io ho l'alimentatore switching che c'è la ventola, va? E i due punti S ti frega, Gianni, dai. Ok. Comunque sono delle belle antenne, sono delle belle antenne, già vanno bene, sistema facilissimo da fare, vuole bene, ben montata, perché noi l'abbiamo veramente montata bene, assemblata a regola d'arte. Ok, dai, allora mi pare che il break sia quello di Nicola, vediamo un po', se lui, Nicola, sei tu avanti? Sì, in Viale Trento, sì, in Viale Trento, ma non sei nella posizione di ieri? Ah, ecco, hai cambiato l'antennina e hai messo quello corto, forse hanno difficoltà ad ascoltarti gli altri. Gianni, lo senti tu? Molto, molto basso, cosa che ieri lo sentivo bene. Lo sento bassissimo. Tu mi arrivi 9.30, Claudio. Una bella ricezione, c'è. Va bene. Sì. La ricezione è buona, ma anche la trasmissione è qua, anche la trasmissione. Aspetta che fra un po'. Adesso caso vai, lo sollecito a mio nipote. Quando viene, non ti dimenticare, portami l'antenna. Anche se non vengo in team, se te lo occupo il paiussi. E io vabbè, gli tengo un microfono e lui è pacifico e tranquillo. Così anch'io ci avrò quella originale qua. Bella antenna, io pensavo fosse come la Daimo, no? La Daimo è in una proprio una resina, una cosa del genere, capito? Quella invece è in PVC, però è un PVC speciale, un PVC che flette tantissimo, l'abbiamo visto, flette tantissimo. Va bene, dai. Comunque ottimo, sì Gianni, è ottimo, sei quasi 25 e tu quando attacchi vai sul 30 pieno, quindi è un ottimo segnalone, poi dovrai chiedere a Massimiliano come gli arrivi, per cui c'aveva un riferimento tuo, che appunto ha detto che quello che arrivava più forte di tutti è da lui, quindi vediamo se riconferma quello che ha detto, sei veramente a bocca, qua sei perfetto, eh. Qualcosa cosa in più hai migliorato rispetto all'altra, tenendo conto dell'altra che avevi prima e non questa ultima. Che avevi prima le mancavano un po' di radiali, però questo è un ottimo segnale, penso che sia quello più alto di quella zona, a parte quello di Marco, che è un po' più vicino, arriva un po' più forte, però questo è il segnale più alto. Va bene, avanti Luca. Sì, da buon posto già, no, non c'è niente da dire, è perfetta, va benissimo, ottima. Io avrei preferito, sono sincero, di più Amato, ma sì, cioè a mio gusto, poi ognuno è libero di scegliere quello che vuole, ma comunque va bene lo stesso. Bisogna cambiare, se no abbiamo sempre l'Amato e non conosciamo le altre atlete, bisogna provare. Poi se non va bene si cambia di nuovo. Speriamo che vada bene, perché il rischio della puttana non è. E lui avrebbe preso anche la mantova, sono sicuro, però aveva il terrore dei radiali, perché cioè, nelle condizioni in cui si trova lui non può stare, sale e scendi, capito? A me, se mi chiama io vado, gliela sistemo anche tutti i giorni, non me ne fotte nulla, però capito? Lui aveva questo terrore, penso che adesso abbia appunto un'antenna seria, un'antenna che funziona molto bene, senza il terrore dei radiali, dei corvi che si attaccano, che fanno, perché alla fin fine è una cosa allucinante, cioè quando tu vieni qua e vedi le antenne che erano sino all'altro giorno lucide, perfette, pulite, ordinate, c'è il terrazzo che sembra un campo di battaglia, tutto nero dagli storni, l'antenna fa veramente schifo, ma veramente schifo. Fortunatamente non si vede, ma io la vedo quando salgo su a controllare. È tutta sporca della cacca degli uccelli. Gli uccelli fanno un disastro. E soprattutto quando piove, per asciugarsi, si mettono tutti in fila sopra i radiali, cominciano a muovisi, e fanno danno. Invece lì danno non ne fanno più. Si può sporcare l'antenna, perché è chiaro che si sporca, diventa più nera dalla salsedia, dal coso, però non hai quel problema, quel terrore che me ne è sceso un radiale, devo metterlo, devo fare, capito? Avanti Giulio, lo senti a Nicola tu? No, lo sento, ieri lo sentivo discretamente, oggi non lo sento per niente. Ciao Nicola, se mi stai ascoltando. Sì, ma è così, guarda, Gianni comprando con l'antenna si è tolto un impiccio abbastanza fastidioso. Ha fatto una cosa secondo me giusta che dovevo fare. Innanzitutto per il fatto che non devi stare sempre salendo e scendendo. E poi per la sua situazione con questa gamba che purtroppo è successo quello che è successo e ha problemi. E dunque, come stavi dicendo tu, è utile stare lì a sera andare giù. E poi va bene, ti posso garantire che vada bene. Poi il numero accolgo da segnale. Anche lui si accoglierà. Poi guarda il segnale mio, Gianni, avrai notato che adesso avrai sicuramente un segnale più alto, il mio, una ricezione migliore. Tu stesso mi stai dicendo due stacche più di me, che e non è poco, due stacche sono due stacche, anche se io ancora ce l'ho il basso, vuol dire vedremo quando ascolterò se riesco a migliorare anch'io, se non miglioro va bene lo stesso, che problemi ci sono. Quando me la porta vediamo un po' cosa mi dice e mandiamo la porta presto. Adesso, quando vieni, fa, io vengo uno di questi giorni, ma che sia uno di questi giorni, non uno di questi anni, gli ho detto. Ma se già vengo. È la benzina che me la fa, e a tutti i tigni tu, portami l'antenna, poi non ci pensare alla benzina, perché lui ha una 500, ha capito, e lei è un ragazzo, e dunque di nano a poco. È così. Va bene, dai. Già vi è, dai, tra un po' mi porta l'antenna. Allora, come arrivi? 9.30 come Claudio. Preciso, il segnale uguale. 9.30. Perfetto. Appunto, sì che vedi bene che non è poco, non mi sembra che sia poco, no? Considera sempre che l'antenna non ce l'ho io. Per cui, anche se Claudio è in alto, però è più lontano, insomma, non è che si può fare nemmeno questa comparazione. Però diciamo che va bene. Mi accontento, io sono contento, guarda. Sono contento, innanzitutto perché mi senti bene tu. E poi perché sento io bene a te. Almeno grazie a te. avrei sorto un problema che dava fastidio, in effetti dava fastidio, perché mi stavi arrivando, sentivo 7:30 mi stavi arrivando. Per cui ti sei tolto un piccio là, un piccio seccante. Ma avanti Luca. Sì, vabbè, dai, già te l'abbiamo fatto, poi. C'era freddo stamattina, la verità, poi scaldato si stava anche bene, vero Claudio? Sì, sì, sì, avevo paura perché il cantiere era presto, c'avevo un freddo che mi stavo, per carità, e c'era questo venticello leggero, però era fastidioso, gli ho detto, ma speriamo che non aumenti, capito? E invece quando siamo arrivati lì, verso le 9:30, che ora 10:15, si stava benissimo, abbiamo lavorato veramente molto molto bene, eh? C'è stato anche fortunato già, andiamo in piazzata, e tutti i tiranti nuovi a regolarate, Giulio, le cravatte, una sotto, una sopra, alla grande, c'ha 3, 6, 7, 8, 8 tiranti nuovi, nero, un buono, tutti con gli occhiali, tutti fatti regolati, un bel impianto abbiamo fatto, un tubo nuovo, tutto nuovo, fasce tutto nuovo, completamente nuovo, cavi, PL, tutto, tutto buttato via nella mondezza, d'altronde era tutto a lampazzi. Comunque ho Gianni per la cronaca, un altro messaggio, ma segnale, è rientrato adesso al lavoro, vi saluto a tutti, non può entrare, entrerà dopo, sta facendo la doccia. Il tuo segnale è 9:32 da Massimiliano, 9 più 32 Gianni. Anda bene, saluto Massimiliano, dai. Già va bene. Beh, sono contento, va. Ok, già va bene, sta andando benissimo, già, sta andando benissimo, non bene, benissimo. Io stamattina ho fatto una visita, comunque, grazie a Dio, sembra tutto a posto. Naturalmente la terapia di prevenzione la dovrò continuare, adesso se ne riparlerà al 20 di febbraio, un altro ciclo, e poi tra 3 mesi di nuovo ripetere questa visita che ho fatto oggi, la dovrò ripetere, e poi se ne parlerà il 25 maggio. Insomma, devo fare tutti questi controlli continuamente, ma comunque interessante che dei controlli non me ne frega niente, li faccio perché li devo fare. Interessante che sono riuscito, grazie a Dio, a eliminare il problema, che era un problema serio veramente, dopo fortuna. Vabbè, dai, mi prendi Luca. Meglio così. Quindi già, prima sfioravi 9 più 30 da Massimiliano, eri intorno ai 28, 9, 28, non arrivavi al 30, adesso sei 32, quasi 35, quindi ti posso garantire che hai un ottimo risultato con quarantenna, ma l'ho visto da qua, non arrivavi al 20, adesso lo superi di brutto, sei addirittura quasi 25 sul picco di modulazione, quindi più che soddisfatto devi essere, eh? Va bene? Adesso la proviamo in lontananza, come va? Mi ricordo anche Sandro, arrivava fortissimo da Pototone, se mi ricordo che Sandro aveva un bellissimo segnale, arrivava a 9:15. Sandro qua mi è arrivato anche a 9:20, se per quello. Però Sandro aveva Ciuccio sotto sempre, maledetto, che però da Pototone si arrivava molto bene. Nicola, l'hai cambiata questa antenna, altrimenti Giulio non ti sente, eh? Nicola di Bari. Sento Giulio, se riesci a copiarmi. Sì, adesso ti ho copiato, ciao Nico. Adesso ti ho copiato, sì, discretamente, dai. Praticamente come ieri. Sì, va bene così. Ma te lo dicevo Gianni, tu non mi vuoi qui, tu fin quando non te l'ha detto, ciao Franco, non si sei convinto. Quando sono arrivato io, non eri convinto. Poi hai sentito, ciao Franco, allora ti sei convinto. Sì, proprio... vabbè, non frega niente, non sono geloso. Sì, ti sento Nico, ti sento. Vai Luca, fai girare. Allora avete già fatto, l'avevo già ordinata Giulio, l'antenna. Ho guardato i forum prima, mi sono documentato. Adesso mi vuole rincuorare che hai pensato bene a quello che ti ho detto io e non hai deciso dopo che ti ha convinto Gianfranco. Era già ordinata l'antenna quando me l'ha detto Gianfranco. Già ordinata la per... Ho capito, vuol dire che mi stai tenendo in considerazione. giovane dove arriva, già l'abbiamo visto nel computer, non è che possono scrivere una cosa così, se l'hanno scritto, se hanno messo tanto di fotografie, eccetera, tanto di picco di coso, vuol dire che un assidio, non è una detta digitalo, tanto per fare un esempio. Questo è l'assidio, stiamo parlando dell'assidio, Gianni. E poi c'è una delle poche fabbriche che è rimasta con la Sigma. Non so se la Sigma ci sia ancora, ma la Sigma è una delle poche fabbriche di antenne che è rimasta. Avanti l'amico Lupo Grigio. Ma secondo me poco fa non era Lupo Grigio. Mi è sembrata la voce di Giuseppe. Giuseppe, sei tu? Giuseppe è tornato, mi sa. Giuseppe sei? Ciao Giuseppe, ma infatti dalla voce mi sembravi tu. Giuseppe Tornado, certo che ti ascolto Giuseppe, Santiago 7, Radio 5. Dai, va bene se metti su anche tu qualcosa, almeno ti fai due chiacchiere, visto che siamo rimasti quei quattro gatti. Dove sei? A casa? Ok, arrivi. Giulio, l'hai sentito Giuseppe? No, adesso non l'ho sentito. Poco fa l'ho sentito, non era molto alto, però l'ho sentito. Giuseppe, non so che mi stai raccontando. Cosa è successo? Se ti ho sentito poc'anzi, anche se ti ho scambiato per Nicola, non lo so. Vedi un po', vieni avanti, vediamo se riesco a ascoltare. Giuseppe, l'hai sentito Giulio che ha salutato? No, non lo sento più io. Ok, vai Gianni, riprendi. E poi c'è un problema, non lo so. Perché toccare in condizioni precarie, probabilmente c'è qualche problema, in antenna. Anche perché non senti bombassa anch'io qua. Ok, penso non ne abbia antenna, sta usando qualche antennino o qualcosa. Condizioni precarie sono quelle. Vabbè, rientrerà, dai. Se mi stai ascoltando Giuseppe, un saluto. Avanti Luca, riprendi. Quando sei pronto, io intanto non c'è niente da fare lì, in quello di Gianni non c'è niente da fare, c'è solo da staccare la spirale, mettere la fascetta nuova con la spirale dove si è rotta, che si è rotta nell'aggancio, bisogna tagliarla col seghettino, pestarla e rifare il buco per rimetterla dentro la sua sede. Ma così la cuci. Ecco, non c'entra niente quello Gianni, quello non serve a niente. Quella serve solo per salire e scendere. Il giro è uguale, non cambia niente. Non si preoccupi. Anch'io la mi si era rotto l'aggancio, l'avevo tagliato col seghettino, registrato il break, pestata, rifatto il foro, rimessa dentro, non cambia niente. Quella è solo una regolazione, sali e scendi, no? La circonferenza rimane sempre quella. Avanti, che è Massimiliano? Sì, sono io, ciao, buonasera a tutti. Ciao Massimiliano, buonasera, Gianni, vai. Ciao Massimiliano, mi sentite cordialità che a te. Ciao Gianni, ciao Giulio, mi sembra che c'è Luca, ho sentito anche da Giuseppe il Tornado. Boh, l'ho chiamato, non ha ripreso, Giuseppe. A proposito, l'ha tornato una bella antenna, Anche l'ha tornato una bella antenna, mi piace. Sono belle antenne. E ho deciso su quella la Game Master, sulla Tornado che è molto simile alla Amato Bacino. Già, non so se posso permettermi, a me questa Game Master non mi piace, devo essere sincero. È un tubo, un pezzo di canna a pesca, boh. Farà il suo lavoro, quello che vuoi, però almeno come tipo di antenna io sono un po' più tradizionale, va. E vabbè, ma se non rubi, Massimiliano, stai sempre con le stesse antenne e non scoprirai mai le prestazioni delle altre. Dobbiamo anche sperimentare, no? Io ti sto dicendo, ero deciso, se prendere l'uno o l'altro, poi io devo pensare ai radiali, mi riparo nei radiali, dopo devo stare sempre in alta l'antenna, invece così ho opzionato per questo e sembra che vada bene, dai. Senza ombra di dubbio già, io stavo parlando estetica e come antenna e cose, poi potrebbe anche andare meglio della Mantova sicuramente. Va bene, ok, vai Giulio. Ok, chiaramente ognuno ha i suoi gusti e considerare che la, purtroppo la massa va, non la stanno costruendo più, prima o poi non esisterà più. Per cui adesso sperimenta questa, visto considerata che è un'antenna che va bene, pertanto non penso che abbia sbagliato. Io sono convinto che lui ha fatto bene a comprare quella, questo per evitare il fatto di irradiare. Io la verità. Poi se parliamo di estetica, l'estetica, non lo so, io esteticamente vedo il tetto più pulito con la Game Master, mentre invece lo vedo impegnatissimo con la Sigma, con la Mantova. Soprattutto devi considerare anche questo, che in caso di calamità naturale, e cioè di lampi eccetera, la Mantova attira molto, ma molto di più di quanto può attirare quella lì. Per cui bisogna vedere, adesso comunque a noi quello che interessa è che funzioni, che ti soddisfi sia in trasmissione che in ricezione. Poi le tette, che se ne frega, sul tetto, intanto noi che l'abbiamo da baitando io. Stammelo nell'occhio e dunque passa anche inosservato. Forse, adesso io voglio dire anche un'altra cosa, forse, può darsi che mi sbaglio quello che dico, o meglio quello che dirò adesso, se l'avesse fatta anche Natalino, quando gli ho detto mettiti la Game Master, probabilmente non avrebbe avuto problemi che ha avuto. Probabilmente, guarda, perché sono convintissimo che non avrebbe fatto TVR. Purtroppo ho optato per quell'antenna che ha, lì ci sono i radiali ed ecco il risultato, tutto lì. Ok, avanti Gianni. Perché io gli ho detto, aver preso a toccarla è un casino, a salirla, a farla e ad andare di su. Tranquillamente, perché è un default, quindi praticamente già forse sei mancato, è importante, io sono mancato adesso forse perché l'ho bevuto male, dai. Riprendi qua, io scendo un secondino, devo salutare mia figlia e mia moglie, sono arrivate, riprendo dopo. K, riprendi qua adesso, non mi regge, scusa un attimo, calo, mi regge più. Ma cosa ragazzi? No, non mi regge il tasto prima con una posizione reggeva, adesso non mi sta reggendo, non capisco il perché. Ah, eccolo qua, là. Ok, riprendi giù. Ok. Sì, infatti è la radio di Gianni che è mancata per un attimo. No, sembrava una portante, sembrava, invece no, ho guardato il segnale, no, era Gianni che era mancato del radio per un attimo. E vabbè. Ecco appunto quello che stavo dicendo poc'anzi. Molto probabilmente se l'avesse montata Natalino intanto ci sarebbe stato molto ma molto meno lavoro. Perché una tenda del genere ti appace, tu basta pensare che Franco, lo marito di Ombra, l'ha attaccata alla staffa del filo e del filo da stendere, ti puoi immaginare. Mi avevano mandato la fotografia, io l'ho vista come era montata, lunga tutta la parete, tipo quella di Natalino stesso, però l'ho messa sopra la staffa del filo da stendere della sua finestra, ti puoi immaginare. È una cosa che è fattibilissimo, perché è leggera, non devi chiedere praticamente aiuto e permesso a nessuno, perché è una cosa che va bene e poi funziona, basta, quando funziona che se ne frega poi sia dell'estetica, dei gusti, di tutto, quando funziona funziona, basta, è tutto lì. Non ti sembra che sia così o qua? Ma certo, così sì, non è che ci vuole molto a capirlo, è così, però lì da Natale visto come l'impianto, non è che un impianto facile da fare, attenzione, però si potrebbe anche sperimentare quel sistema, si potrebbe anche sperimentare, mo vediamo, con andare del tempo, se è fattibile, se per lui va bene o non va bene, possiamo anche sperimentarla lì, la stessa antenna, vabbè. Avanti Luca, riprendi, ma è sparito Nico? lasciare la signora da sola. Allora, nel caso che arrivo in tempo a casa, riprendo da casa. Ma se controllo l'orario della trappa che la passa. Va bene, Luca, noi siamo qua, facciamo due chiacchiere e siamo qua. Niente, Gianni, ripeti. Ehi, vediamo se c'è Nicola. Nicola, ci sei? Attenzione, Nicola, ci sei? Io aggiungo sul GRC, perché quando mi ha dato quel difetto l'apparecchio, invece il GRC pensando che era il microfono, e me l'ha sbloccato, adesso non mi tiene il tasto, quando tu lo metti fisso, non metti nel tasto del microfono, se ne salga. Adesso sta tenendo. Perché già CRC poi si impatta, è un casino. È un casino, va bene, dai. Risolvi anche quello, no? Non c'è problema. Vediamo un po'. Giuseppe, vuoi riprendere, tornato? Sì, Claudio, non so se riesci a sentire. No, io ti sento, ti sento. Mi pare che non ti ascolta Giulio, a quanto ho capito. Lo senti Giuseppe, Giulio? No, non lo sento. No, però, anche Giuseppe a me quando modulava da casa sua, però che non è lontano adesso. Ma quando modulava da casa sua mi arrivava fortissimo, non forte, ma fortissimo. No, non lo sento, Giuseppe, io ti saluto, ma non ti sento, eh. Pazienza, vuol dire, si sistemerà la situazione, così ci sentiremo. Va bene, dai. Sì, tornando al discorso Game Master, io mi ricordo che quando avevo la Mantova Sandro, io allora in quel periodo stavo facendo anche dei lavori a Sandro per casa sua, e mi aveva detto che aveva avuto dei problemi con il vicino, in quanto le faceva TV e le faceva. Poi, quando si è accoppiato la Game Master, io ci sono ritornato sempre lì, e abbiamo riparlato, e beh, mi dice, guarda, niente, dice, guarda quanto è vicino l'antenna all'antenna TV, niente, non fa niente, assolutamente. Eppure la prova ce l'ho, anch'io, che qua, anche se è autocostruita, ha maggior ragione che dovrebbe fare qualche difetto. Io ho anche l'antenna della televisione, tra l'altro, a due metri di distanza, eppure non fa niente, cosa vuol dire? E a volte i radiali sono micidiali, i radiali possono appunto portare dei problemi di interferenza eccetera, mentre invece così, perché questo ha un sistema di irradiazione completamente dal centro in orizzontale, per cui non dà fastidio, non salta, capito? E allora è meglio così. Avanti Gianni. Gianni sta sistemando il microfono. Sì. Oh, Giuseppe, non hai l'antenna che avevi prima? Stai usando qualche antennina? Giuseppe, non lo sento più neanche io. Nicola, ci sei? Lupo Grigio? Eccomi Claudio. Ho detto Giuseppe, ma non hai più l'antenna che avevi prima? L'hai tolta? No, negativo Claudio. Io, noi abbiamo cambiato casa e quella l'ho lasciata lì. Non ho capito, non abiti più a Sacro Cuore, quindi? No, negativo, zona Sassari 2, è cambiata completamente storia. E niente, sto uscendo con un'antenna improvvisata, cercando di farmi sentire. Ho capito. E Giuseppe, se devi piazzare l'antenna, trovati posizione, tempo e voglio, l'antenna si piazza, non è un problema quello. Quando vuoi, lo sai, un corpo di citofono è... Si scende e si piazza l'antenna, qualsiasi tipo di antenna vuoi mettere, anche se non vuoi mettere una vita, ma vuoi mettere un'antenna che ti possa garantire appunto un questo più efficiente, basta solo che me lo dici, capito? Nessun problema, Giuseppe, capito? Ok, grazie. Vai, Dolaro, poi grazie a Gianni, Gianni sta sistemando il microfono. Riprendo io, dai, un altro paio di passaggi. Allora riprendi tu, dai, Marco Giulio ha risposto, riprendi. Sì, dai, saluta Giuseppe, non so se mi sta ascoltando. Gappa, positivo, ciao carissimo, tutto bene? Diciamo di sì, dai Giuseppe, tanto dire di no è peggio, quindi diciamo di sì. Santiago 7 qua mi arrivi, perfettamente bene, Radio 5, io ti ascolto benissimo. La stessa cosa ti posso dire io, Massimiliano, Radio 5, Santiago, sì, 7 anche tu chiedi. Sì, 7 anche qua, sì, in mezzo 7 anche qua, Giuseppe, nonostante sia molto più lontano da te di Massimiliano, però evidentemente c'è una vista ottica per la mia antenna, capito? Vabbè, tieni presente che io sto volando con un antennino da casa, Vabbè, però io lì c'è Sanidura, lo vedo, quindi non ho difficoltà ad ascoltarti, Arrivi Santiago 7, Radio 5, nessun problema, Giuseppe. Ma dai, riprendete, fate girare. Positivo, la riprendo io. Giulio, ci sei? Sì, ci sono. E via quello segnale di Giuseppe. Sento che sta parlando, ma non capisco una parola di quello che sta dicendo perché è troppo basso. Cos'è? Ma ha cambiato casa, stavi dicendo, Claudio? Non abita più lì, ecco il motivo per cui non lo sento. Sarà per quello, anche perché avrà un antennino, senz'altro, se non avrei dovuto sentire ugualmente. Anche lì dalla zona dove sta trasmettendo adesso. Andate qua. Sì, non c'è più lì, non lo sapevo, non abita più lì, c'è qualcuno, abita a Sassari 2, quindi dovrebbe arrivare bene, qua va benissimo. Anche la Massimiliano arriva bene, ha dei punti. Quindi non capisco perché tu non lo debba sentire. Qua è la Santiago 7, Radio 5, ottimo segnale, per essere un'antennina, ottimo segnale. Ma io non lo sento per il semplice motivo che l'antenna mia è bassa e ne è dannato. E poi Massimiliano è più aperto di me. Massimiliano non è di palazzo davanti, io bene o male, almeno qui c'è abitato, ci sono le costruzioni e dunque è anche quello, no? Per cui è normale, non è che ci sia molto da studiare per capire come va. Ripeto, arriva Santiago 5 qua, arriva. È sento che sta parlando, però non capisco una parola di quello che dice. Perché è troppo basso, tutto lì. Va bene, avanti Gianni. Gianni, prego, vai Massimiliano. Adesso un giorno. Chi io? Ehi, tu e. Lo stesso, perché? Hai toccato qualche cosa di Michigini, perché sei troppo forte. Qualcosa di Michigini sono troppo forte? È sempre a un anno e mezzo ce l'ho qua, non lo so. Vediamo se è così. Mi sto mettendo gli occhiali. Ma è così, l'avevo spostato. Adesso va bene? Sì, dai, adesso è migliorato. Eri al limite, là, diciamo così. Non è troppo forte, quindi me ne sono accorto subito. Giulio, c'hai il palo della manto, vai io qui e tira su bar c'antenna. Lo so, adesso figurati se con freddo e con la salire sul tetto. Oh, ma come penso? Terrazzo, lo ripeto, a lungo la mano sta col piede, perché la terrazza ci arrivo ad attaccare il piede, così, senza prendere nemmeno uno sgabello, niente. Senza acquattare i piedi, i tacconi, per tanto per dire, per allungarle. Allungo la mano, se non metto la da parte devo salire sul tetto, lui, no. Quando sarà il tempo un pochino migliore, poi intanto mi deve portare l'antenna che avevo preso da Sandro, me la deve riportare mio nipote, e per cui mi piace quella, eventualmente, proprio sul posto dove c'è la prima domanda, ma e così almeno la sistemo una volta per tutte, un Massimiliano. Va bene, ho sentito un break piccolo, avanti, chi è? Ciao Nicola Lupo Grigio, buonasera, ben ascoltato, non te lo posso dire. Sei un po' bassino, però dai, già riesco a tirarti fuori. Ok, in compagnia mia c'è Giulio, Claudio, Giuseppe, Gianni e poi non so ancora chi c'è ancora. Vai Claudio. Ehi, va bene, dai. Ciao Lupo Grigio, buonasera, ben ascoltato. Ce l'avevo a due più ce l'avevo. Adesso ce l'ho a uno neanche, a uno e mezzo, dai, va bene. No, c'era poco fa anche Lupo Grigio, però non è risposto, ti abbiamo chiamato, non è risposto. Vediamo se senti a Giuseppe Tornado, Lupo Grigio. Giuseppe, lo senti a Lupo Grigio? Giuseppe è evidentemente impegnato, dai, va bene. Avanti Giulio, riprendi tu, dai. Gianni è sparito, non so cosa stia facendo. Sta rubando il microfono. vabbè, dai. Lupo Grigio, sto incominciando a sentirti, forse ti sei portato, senza forse. Non so se sei per strada come ieri. Se sei per strada, tanto male che tu vai a metterti di disobbedienza, era così si può sentire benissimo. Sì, perché sei troppo basso, sento che stai modulando, ma sei troppo basso. Va bene, dai. Sì, allora volevo fare un interrogativo a Lupo Grigio, ma tu non hai la possibilità di mettere un'antenna veicolare, tipo che cosa ne so, una Turbo 2001, una PLC 1000, su base magnetica magari metti un lamierino così 20x20 sul balcone e moduli dall'interno di casa, dentro casa. Secondo me è meglio di salire sul tetto con questo antennino qua e prendere freddo. Sono sicuro che arrivi molto meglio. Avanti. Allora, una mini boomerang è un quarto d'onda o mezz'onda, come la vuoi chiamare. Se tu metti un'antenna tipo PLC 800, 1000, quella è già una 5 ottavi, capito? Quindi hai più resa. Ah, vero, vero, vero. Puoi mettere anche una PLC 800, una PLC 1000, una Turbo 2001, una 5000 Sirio. Cioè, stiamo parlando di antenne alte 1,80, capito? Beh, giustamente è meglio sì. Se tu metti sul balcone un'antenna di macchina, non è come modulare con un antennino. Tutto lì. Ok, là. Gianni, ripreso. Giustamente che sì, ma puoi metterla su una base magnetica, metti qualcosina sotto per fargli un po' di massa e vedi bene anche Giuseppe sta uscendo un antennino, credo, di vettura dall'interno di casa e qua arriva Santiago 7. Ecco, ok, un cobra. O a caso. No, i veicolari hanno la loro colonnina sua. Cos'è? Non ho capito adesso. Cosa hai detto, Cla? Dipende dal tuo gusto e dallo spazio che hai. E il veicolare, se un domani te lo vuoi portare in macchina, lo puoi fare. C'hai meno spazio e tutto. Ti prende meno spazio. Poi se vuoi mettere una base fissa, vedi tu, quello lo lascerai solo a casa e basta, capito? Esistono ancora, ma ormai quello lì è roba vecchietta, roba vintage. Ce ne sono comunque. Va bene, facciamo girare, dai. Oh, qua, vai. Io poco fa mi sembra sentito Daniele. Daniele, tu sei, buonasera. Vabbè, davvero. Daniele. Anche io ho sentito un radio con l'eco, però non ci ho fatto caso se era lui. Sì, la segnale che era lui. Vabbè, intanto rilanciamo per Giulio, va, se poi vuole rientrare Daniele già rientra, avanti Giulio, riprendi. No, ero io, Claudio, buonasera. Io sono... Ah, tu eri, va bene, allora riprendi tu il padre Giulio. Ehi, buonasera a tutti, ciao Gianni, Claudio, Massimiliano, Lupo Grigio che ho avuto piacere di conoscere e poi chi c'è? Massimiliano, Giulio, ciao Giulio. Ora, ciao Tino, salutoni, ben entrato. Avanti Gianni, dicevi? Ehi, ciao Tino, ben sentito. Volevo chiedervi se potevo andare in FM perché l'Altamino in FM non disturba, invece in AM ci quindi non può entrare, ha chiesto se potevamo andare in FM. Scusate, riprendo io, sono entrato giusto per salutare perché devo uscire, vi ho sentito e un tocco e fuggi, dai. Rilancio la manichina a Giulio, ciao a tutti, ciao, sto uscendo. Ciao, ciao, Fottino, buona passeggiata allora, dai, ci sentiamo. Sì, per me, se volete andare in FM, per me va bene, problemi non ce ne sono. Vediamo un po' cosa, come riusciamo a sentirlo, se riesco a sentirlo, perlomeno voi lo sentite ugualmente, io no, non lo sento. Sento che muoio, ma però non capisco quello che dice. Decidete voi, se volete andare in FM, io lo faccio la ciocca e schiacciare qua. Andiamo in FM, andiamo così. Sentiamo un attimino che non disturba, senti sicuramente bene anche a Nicola, vai, passiamo in FM. Dai, riprendo io un attimo, vi saluto tutti e alle prossime. Ciao Giuseppe, alle prossime, un abbraccio. Io sono di nuovo in AM, così vediamo di parlare qua. Vediamo se forse riesco a sentire di nuovo Nicola. Nicola, avanti. Io ti ricevo sempre bene, no, non ci sono problemi. Per me andrebbe bene sia in FM che in AM, ok? Un secondo solo, Giulio, vedi se rientra Gianni che c'è mia moglie Fornelli mi sta chiamando. Ok, d'accordo, qua, d'accordo. Ma probabilmente tu oggi hai la batteria un po' scariche, evidentemente, non so se andavi messa a ricaricare da ieri, tu che sei così comportabile, evidentemente hai le batterie che si sono scaricate un pochino, e sarà per quello che magari stasera faccio fatica ad ascoltarti. D'accordo, quando vuoi non c'è un problema, non è un problema, figurati, ci fa piacere se rimane, se puoi devi chiudere, pazienza, ci mancherebbe altro, vuoi vedere, prima la famiglia e poi il baracchino, poi lui, poche parole. Vabbè, vediamo se è diventato Gianni, non rientra, Natalino, sì, Natalino non c'è, va bene, cosa ha deciso allora, amico? Ok, dico, vabbè, no, non c'è problema, guarda, se devi andare, non ti mettere problema, figurati, ci mancherebbe altro, vuoi vedere. Sì, ma sicuramente così è, evidentemente le batterie si sono un po' scaricate, allora a quel punto lì il problema sarà proprio quello, che stasera non riesco a sentirti proprio come ieri, perché ieri ti sentivo anche Santiago 7, poi invece ti sei arrivi 5 di segnale, praticamente a livello di QRM, no? Di interferenza. Tante parole che dici mi sfuggono, proprio per il fatto che non c'è quella potenza che avevi ieri, in poche parole. Ok, non ho capito molto bene quello che hai detto, comunque. Non ho capito bene, mi sembra di aver capito che aspetti qui entra qualcun altro, forse ho capito bene, non lo so. Sì, ma non te lo metti problema, se ne dicono che chiude in data, non è quello il problema, figurati, poi qualcuno arriverà, siamo una viva pazienza, non è la fine del mondo, ognuno di noi ha i suoi impegni, il suo modo di fare, per cui se non posso parlare con qualcuno in questo momento, pazienza. No, è stato chiamando un attimino, perché poc'anzi si è affacciato un attimino, e aveva detto che le 3M l'avremmo sentito, quindi, e invece non possiamo sentire, perché è andato a fargli visita un amico, è andato a fargli visita, e cioè Marco Condor, e dunque stanno parlando in verticale, stanno parlando fra di loro, capito? Ed è per quello che non ha preso. Gianni si è allontanato sicuramente, è imparato con qualche telefonino. No, Gianni, ci sei? Diciamo Corso Trinità, Corso Trinità, in quei paraggi. Ok, sì, dico, sì, beh certo. Beh certo che lo senti, ma già lo credo, lì siete vicino, siete un tiro di schioppo, per cui vi sentite molto bene, senz'altro. Se lui modulasse riuscirai a sentirlo, e lui sentirebbe te sicuramente molto bene anche, perché siete vicini, e cosa c'è di differenza? 300 metri, non di più. Praticamente tu immaginati il mercato, immaginati anche il tabacchino che c'è in Corso Trinità, più o meno con la testa. Sì, Gianni. Ubrefetta, mi sembra che si chiamasse di Ubrefetto, insomma una frase del genere, come il nome attivo di Baracchino. Sì, no, so che la antenna mi fa male e non è più entrato, non abbiamo più sentito, dall'estate però, ormai io sono un sacco di tempo senza sentirlo, dall'estate addirittura, non ho più sentito, assolutamente. E anche lui lì nella stazione, la stazione di Sassari, lui è lì praticamente, e anche lui se dovesse entrare riuscirai sicuramente ad ascoltarlo, e anche lui non avrà problemi nell'ascoltare te. Questi ultimi che hai sentito, poi c'è l'altra greffa, diciamo, che abbiamo così, l'altra compagnia sul canale 23, che anche lì si riuniscono e anche lì parlano, però c'è qualche disaccordo, diciamolo così, nessuno naturalmente ha bisticciato, per carità, quello no, però diciamo che c'è qualche disaccordo e allora siamo divisi, se non saremmo stati almeno 3 o 4 in più, o anche 5 forse. No, giovani no, assolutamente. Oh, i giovani di oggi non ne hanno passione per il baracchino, assolutamente. Oh, figurati. Io sono uno dei più anziani, perlomeno di questo canale, che parlo in questo canale, no, ma parlo anche sul 23 io, quando lo trovo qua vado là o viceversa, no, non è un problema. Però diciamo che sono, come età, sono il secondo o il più anziano. Nell'altro canale c'è uno che è ancora più anziano di me. Per cui, poi se parliamo di anni di frequenza, io ne ho tanti, tantissimi. Io sono entrato in frequenza febbraio 1972, sì, che ti puoi immaginare, sono già 47 anni, 48 anni, insomma. Perché c'era troppo quadrello, in quel momento non ho capito bene. No, io sono CB, non sono M, io sono CB, semplicemente CB, non ho mai fatto l'esame per prendere la patente, non mi è interessato, non mi interessa adesso che ho una certa età, per cui figurati se mi metto la mia età, a circa 78 anni mi metto a studiare, no, non ne ho più voglia, assolutamente. Prima non avevo voglia perché lavoravo sempre, continuamente, uscivo al buio la mattina e rientravo al buio la notte, per cui non avevo tempo per poter studiare e fare gli esami a Cagliari, eccetera. Io sono rimasto sempre in CB. No, in questa volta sono Corvio, che lui era l'amatore, patentato, lui sì, lui da tanti anni era l'amatore, però preferisce parlare qua, non è che va molto volte in mandare l'amatoriale, assolutamente. Abbiamo mai fatto, però non lo monterò più. più quella, se suppongo che non lo monterò più, salvo cambiamento di idee, ma non credo, però, non credo, perché sarà un po' molto forse in estate, quando il tempo è buono, ma in inverno, guarda, no, non la sopportavo più, perché durante la notte, quando c'era vento, mi dava fastidio veramente, guarda. Giulio? Sì. Tutto è possibile, un attimo che mi ha chiamato, sì, beh certo, è possibilissimo, e anche per quello, guarda, io lo tolto anche per quello, perché un paio di anni fa qui, non sulla mia casa, ma in una casa a 200 metri di distanza dove abito io, e il caso ha voluto che un fulmine è caduto sull'antenna della televisione, che allora ho pensato, ma quasi quasi la tolgo, così c'è anche meno possibilità, che poi bisogna essere solo fortunati in questi casi qua, perché il fulmine dove cade e fa sempre danno. Chi è che mi schiama avanti? Sì, a Gianni, scusate se mi sono assentato, ma mi sono reso conto che non ci avevo le pastiglie, ho dovuto mandare mio figlio a prendermele. Sono pastiglie che mi servono. Beh, io sono rientrato, adesso sono con voi. Ok, già, meglio così. Dai. Infatti ti abbiamo chiamato più volte, ma io avevo pensato, ma forse sei a telefono, Gianni. O perlomeno se sta telefonando con Natalino, visto e considerato che c'era Marco anche al telefono, o di persona erano, forse erano in verticale loro. Al telefono era. Quindi, capito. Niente, chi è rimasto? Nicola c'è, sono Nicola e tutti gli altri si sono allontanati, anche Claudio si è dovuto allontanare perché aveva da fare qualcosa in cucina. Avanti ancora, Nicola. Vai pure, cosa devi fare? Vai allora dai, ora dai, vai a fare gli onori di casa. Dai, ci sentiamo un altro momento. Lupo grigio. No, pensavo ti dovessi spostare per un attimo, per quello te l'ho chiesto. Pensavo dovessi andare al QTH piccolino, roba del genere. Vabbè dai, ti auguriamo una buona serata, una buona continuazione, grazie per il questione. Avanti giù. Ok, sì, ti saluto anch'io. Ciao Nicola, salutoni. Allora, buona serata. Grazie per la piccola chiacchierata che abbiamo fatto. A presentissimo male, magari in conversione possibilmente di giugno. Alla prossima, ciao Nicola, ciao. Così è già, d'altronde mi stai rubando una fucilata già, stai rubando una fucilata la tua modulazione, è poco, non pompa, cazzo. Ascolta, ma il segnale adesso è aumentato con questo apparecchio, perché ho cambiato apparecchio, prima per galascia adesso c'è il mangio. Sì, ha aumentato, sì, qualcosina ha aumentato, ma è una fucilata quel baracchino lì, è fortissimo, sai cosa vuol dire fortissimo? Va bene, la presa dell'antenna è l'ultima, o Gianni. Accontentatevi tanto di quell'antenna. Cosa? Non ho capito, sono soddisfatto sì. Per il momento sono soddisfatto, adesso voglio vedere lontananza. Anche lontananza va benissimo già, tutti dinni, tranquillo. Ho detto, a godertene tanto, ho detto, di quell'antenna. Ma non riesco a capirti, cioè sei troppo alto. Troppo alto. Abbassa appena il volume, non si può abbassare il volume microfonico. Certo che si può abbassare, come lo aspetta, eh? Ma è già uno, guarda qua, sotto l'uno, aspetta, vediamo un po'. Però no, ti sto avvicinando troppo al microfono, giù. Così non mi senti già? Sì che ti sento. Cosa mi stavi dicendo che non ti ho capito? A godertene di quell'antenna, ho detto. Ah, grazie, grazie. No, no, io sono soddisfatto, sono abbastanza soddisfatto per il momento. Ho visto che i segnali, anche se sono vicini, mi hanno dato tutti i segnali buoni. Andave, andave. E con questo apparato si abbina bene, è vero? Ehi, alla grande, capita che si abbina bene. Alla grandissima, va benissimo, veramente. Quale preferisci, questo o il Galaxy? Ma se devo essere sincero, come potenza questa la sento più forte, che poi sono chiarissime tutti e due, sia ben chiaro. Questa però si sente che spinge di più. Si sente? Scappa. Va bene, è un po' di radio diversa. Comunque già vanno bene tutti e due. Anche il Galaxy, sono contento che dottor Fabrizio me l'ha aggiustato. Beh certo, cazzo, il Galaxy è un ottimo apparecchio, già lo credo. No, e poi già se l'ha fatto proprio bene, no, non c'è problema, già si sente bene. Solo che quando metti l'eco nel Galaxy rimane una modulazione di lontananza, rimane. Questa invece è proprio prepotente, la modulazione questa è proprio prepotente. Però anche se è lontananza è forte lo stesso, già quella del Galaxy. Questo è il microfono, è normale, non è amplificato, cazzo. È normale il microfono. Ma è fortissimo già. Lo so, è un microfono normale, però questo è un microfono che ti modula al minimo al 95% della potenza stessa, a differenza di un microfono normale qualsiasi che modula intorno al 40-50%. Questo è un malattino come si deve, insomma, ecco. E questa musica tu rubalo. Appunto, quello è il problema, è quello. Poi qua non è al minimo 30-40 di watt, così. No, io sono al minimo adesso. No, una ventina ne dà. Ma io sono al minimo. Sto scendo col minimo di watt. Quindi se dovessi potenziare aumenta di brutto. Ma poi va bene così. In banda laterale poi non si va vita, è sempre. Si sente che la radio è proprio bella, prepotente, dunque prova a dargli tutti i watt a vedere a quanto arriva del segnale qua. Aspetta, devo accendere la luce e mettermi gli occhiali perché non vorrei toccare cose che non devo toccare. Fai, non c'è fretta. Avanti Eugenio, avanti, mi ascolti Eugenio. Eugenio, come va Giuseppe? Come va? No, per 22 di segnale. La radio poco è chiara lo stesso, poco rimane più compressa. Aspetta che c'è Eugenio che sta chiamando, lo abbasso di nuovo. Eugenio avanti, ho sentito solo cambio, e basta, tutto lì, non riesco a capire cosa dici, sei lontano. Lo ascolti a Eugenio Giulio? No, non lo sento, no. Ma deve essere lontano, deve essere. No, magari al porto e non c'è una ombra lì. Sarà così. Probabilmente è una zona ombra al porto. Sì, beh certo. No, ma non lo sento, la verità. Io devo spostare l'antenna per avere più ricezione, la devo spostare, metterla proprio dove c'era la massima turbo, che è praticamente 6 metri più in alto e non è poco. E poi devo anche mettere quella originale. Speriamo che me la porti il prima possibile, così le regalerò qualche microfono, magari amplificato anche, a mio nipote, lui già si accontenta. No, che poi mi ero dato tante di cose, mi capita, poi gli avevo dato un rollo, gli avevo dato un baracchino, gli avevo dato questa antenna, poi cos'è che gli avevo dato? Ah, PL, poi non ne vedemmo, mi sembra che avevo dato 5-6 PL, un pezzo di cavo gli avevo dato, saranno state una ventina di metri qualcosa. No, gli hanno aggiurato già, per cui sembra che si dice l'antenna, non ci sta perdendo, stai tranquillo. Io sì, io ti ascolto Eugenio adesso, dai. Dove vedi al porto? Adesso sto cominciando a sentirti Eugenio, ma ancora sei troppo basso. Adesso è bello stanco. Di segnale come ti sta arrivando Eugenio? Ehi, sì, ho ripiazzato l'antenna nuova. Già va bene Eugenio. Se no te l'avrei detto che andava male. Va bene. Ciao Eugenio, dai. Buona serata, avanti giù. Ok, ciao Eugenio. Alle prossime, dai. Magari in una condizione migliore, perché non ti sentivo. Sentivo che modulavi, ma capivo poco e niente. Eh beh certo, d'altronde sei comportato pure al porto, che segnale vuoi che ti possa dare? No? Non va bene, dai, il segnale si dà quando si è a stazione fissa, così almeno sei sicuro che è quello e basta. Ma quando sei comportato le mani, anche il solo movimento della mano, già cambia il segnale. No, in macchina, è in furgone, ce l'hai in furgone. Ah, nel furgone, sarà nel camper allora, non il furgone, sul camper. No, c'è anche il furgone, Eugenio. Ah, ho capito, non lo sapevo, vabbè. Comunque, va bene, dai. Andate. 7:26 minuti, vabbè, ancora già presto. Per la cena ancora già presto. E sì, che ti stavo dicendo? Mi ha promesso che uno di questi giorni veniva e me riportava l'antenna. Così almeno la... Che poi non si era nemmeno piazzata mia, te ne immagini? Dice non ho avuto tempo e poi non c'era nessuno che mi aiutasse a salire sul tetto. Allora riportamela, che già la uso io, e già te la riporto. E cosa mi regali? Sempre mi stai nei regali, Zidro, che ti sa. Vabbè, te lo faremo altro regalino, non è un problema. Sì, ma sul tetto lui cosa c'ha? Qualche antenna bella? Ma se può essere la verità, non so se ha o una manto va uno o cosa. Questo non te lo so dire, la verità. Non glielo ho mai chiesto veramente, non glielo ho mai chiesto se che antenna avesse. Dice che c'è qualcuno lì, non è che ci sono tante persone, però dice qualcuno ogni tanto gli assistente. E dunque, sai cos'è, lui deve studiare, soprattutto era la madre, il padre, quando lo vedono attaccato al baracchino, la cosa che mi si avessi preso il libro a studiare lì anziché stare lì attaccato al baracchino. Vabbè, dai, anche gli svaghi ci vogliono. Beh certo che ci vogliono, infatti. No, già è studioso, già è un ragazzo che studia, la verità, già si impegna, tanto è per lui lì, se lui si impegna nello studio è tutto per lui, tanto è guadagnato, sempre lui è che ci guadagna. Vabbè, so avvenire, lo studio so avvenire. Appunto, perciò, poi, vedremo un po' se non si stanca, ma non credo, però. Già mi sembra un ragazzo abbastanza sennato, abbastanza calmo, tranquillo, no? Non c'è problema. Vabbè, dai. Sarei stato curioso di sapere se a Cagliari ci sono ancora molti CB o se anche Cagliari è figlio di Sapere. Proprio quello ti stavo chiedendo, nel suo paese ce n'è CB. Mi è stato tornato come primo. Qui ciao fra. Non molti, no? Già, non molti, ma sono, noi siamo in pochi, vabbè, comunque. Già c'è qualcuno. Come tutti i posti ormai. Ciao fra, avanti. Ciao Giulio. Niente, sei tornato come primo, Buonasera. Ciao fra, sì. Stamattina abbiamo messo l'antenna con Luca, Natalino e Claudio. Tutto cambiato, tiranti, tubo, tutto gatto, staffe, tutto gatto, non staffe, non le... vabbè, le come si chiamano? Le crociere che si mettono sui tiranti. La ralla. La ralla. Sì, diciamo una cosa già, l'altro capo l'hai lasciato come avevi deciso di lasciarlo ieri, o l'hai tolto via? No, l'ho dato a Luca, che ci mette l'antenna sopra al tetto della ragazza, tanto a me non mi interessa avere quello dentro. Ah, ho capito, va bene, al limite già ne vendono capo, al limite se decidi di usare l'altra antenna che sappiamo, dai. Vabbè, avanti fra. Ecco, Gianni, quanti watt stai uscendo? Io adesso sto uscendo con 5 watt. Beh, allora è aumentato un pochettino, c'è un pochettino di resto. Perché adesso prima a 9 non arrivavi, e adesso sei 9 spaccato a 9,5 milliwatt. Già va bene, sì, no, ma l'ho già appurato che sta andando bene. Ho già visto già con altri segnali, è aumentato qualche cosina, non dico tanto, ma un pochino sì. Capo. Sì, vabbè. Vabbè, sempre 5 ottavi, sempre quella la resa. Però va bene, perfetto. Va bene, e allora Giulio? Qua siamo. Stamattina ho fatto il controllo all'ospedale e dunque grazie a Dio sembra che vada tutto bene. Naturalmente dovrò fare dei controlli saltuariamente, così adesso devo ritornare il 20 febbraio. Dopo fra 3 mesi mi ripetono la visita che ho fatto oggi e poi dovrò andare anche il 25 di maggio sempre per un controllo e così via. Purtroppo bisogna fare tutta l'altra fila di questa terapia di prevenzione, se no sono un figlio, così si dice a Satana. Quelle cose vogliono fare, perché meglio prevedere che curare a volte. A quanto stai dicendo sta andando tutto bene, meglio così, vediamo di che sparisca. Sì, diciamo che è sparito e non si vede più niente. Probabilmente mi ha aiutato Gesù Cristo, o non mi riferisco, oltre che mi hanno aiutato i medici, vabbè, era una cosa all'inizio, però all'inizio si sa, siccome sono cose che si possono riformare, ed è per quello che mi fanno fare la terapia di prevenzione saltuariamente, capito? Ma tu sei andato a fare una visita di prevenzione o te ne sei accorto da qualcosa giù? Io ero andato per fare una visita urologica, no? E dunque il professore, che è il direttore della clinica della Secca Bianca di San Pietro, ha uno studio privato anche lui, e io sono andato a lui a pagamento. Come si fa? Perché regolarmente bisogna andare a controllarsi, dopo una certa età bisogna andare ogni poco tempo, almeno uno o due volte l'anno devi andare a farsi controllare. Sono andato e mi ha detto, purtroppo ho un inizio di tumore alla vescica e mi fa ad un raggio, ti puoi immaginare. E allora mi hanno messo in vista, mi hanno ricoverato, mi hanno operato una prima volta. Poi mi hanno chiamato dopo aver fatto una serie di terapia, mi hanno chiamato dopo 2 mesi, 3 mesi, e mi hanno fatto un altro controllo di nuovo, cioè mi hanno ricoverato di nuovo e mi hanno fatto un altro controllo prendendomi un campione di tessuto. E poi questo campione di tessuto è stato analizzato e grazie a Dio è sparito tutto, non c'è più niente. Però se tu non ti curi, ti voglio dire, se tu non fai la terapia e tutta l'altra fila che si deve fare, si potrebbe anche riformare. Ecco per quello appunto che mi saltuariamente da un giorno all'altro mi danno gli appuntamenti e devo fare queste cure di prevenzione, capito? Cioè visite più che altro prevenzione. capito già? Ehi, sì sì, anche a mio padre praticamente era successa la stessa cosa, però a 96 anni gli hanno trovato e gli hanno detto che poteva campare altri 10 anni, se fosse per 10 anni, ma lui quando muore questo tumore non gli fa niente, perché è anziano e le cellule si sviluppano molto più lentamente. Sì, quando sì, appunto, quello già è vero, però la terapia la deve fare sempre, anche se io in realtà adesso sono guarito, come io e tanti altri, no? Per fortuna siamo guariti, però dobbiamo fare sempre queste visite di controllo che consistono in, ad esempio, la prima fase erano 6 settimane che mi hanno fatto delle, mi hanno introdotto nel pene un catetere e mi buttavano dentro una medicina, no? Che quella era una volta alla settimana. Finita quella fase, allora è successo che mi hanno fatto di nuovo il ricovero e mi hanno fatto un controllo, ma una cosa di qualche giorno, sono stato pochi giorni lì, mi hanno preso di nuovo un campione e l'hanno di nuovo analizzato, e fortunatamente la cura che mi avevano prescritto ha fatto effetto e mi ha fatto guarire. Però poi naturalmente deve continuare e allora ho fatto un'altra serie di tre applicazioni di nuovo, sempre 3 settimane. Dopo queste 3 settimane mi hanno detto adesso per il momento basta e mi avevano dato appuntamento oggi, per fare questa cistoscopia si chiama. E lì con una macchina mi hanno messo a gambe per l'aria praticamente, sfogliato e ovvio no. Mi hanno attaccato dei tubicini al solito posto, mi hanno iniettato dentro non lo so che cos'era, forse qualche disinfettante o dell'acqua, qualcosa ne so, non so che cosa, e hanno guardato nel monitor, una specie di computer grande, quando era tutto a posto, ma una visita che è durata 5 minuti, niente di più, ci ho impiegato di più a svestirmi e a rivestirmi che a fare la visita. Ha detto tutto a posto, non c'è più niente, tranquillo, va bene. E così via, adesso dice che prescrivo 5 giorni di antibiotico, perché quando fai queste visite ti danno subito un antibiotico per, non si sa mai, per le infezioni, no? È una pastiglia al giorno praticamente. E dopodiché dovrà ritornare qua il 20 di febbraio per fare di nuovo le applicazioni che ha fatto prima precedentemente, e cioè la solita cosa, questa medicina che ti iniettano eccetera, capito? Dopo quella di nuovo tra 3 mesi dovrò ripetere questa visita che ho fatto oggi, sempre per controllare, per vedere se si sta riformando di nuovo, capito Gianni? E così via. Sì. Ma che mio non è fatto? In realtà quello che mi iniettano è la chemio direttamente sul punto dove c'era il problema, capito? È diverso, è la stessa cosa comunque, è sempre una chemio, ma è direttamente nel punto appunto dove c'era il problema. Vabbè, è interessante giù poterlo raccontare, essere tranquilli adesso, dai. E cosa ti hanno detto? Che adesso non ritorna, non ritorna più, dovrebbe essere passato tutto. Chi lo sa già, io mi auguro di no, però visto e considerato che la terapia che mi hanno fatto ha fatto sparire quell'inizio, perché era una cosa presa in tempo tutto sommato, era appena un inizio, e dunque me l'ha guarito. Io al momento sono guarito, però ripeto, perché sono cose che si possono riformare, e allora mi fanno questa terapia così come ti ho detto, capito? Gappa, Franco, riprego. Non so se non avete chiamato poco fa perché ho abbassato, che non ho telefono, va bene. Cosa bella è quella, non so. Pensate che vada tutto per bene Giulio, tutto il resto ce lo prendiamo. Ah, quello sì, è d'ottobre, sai, gli uomini sono soggetti, arrivati alla certa età sono poco gli uomini che si salvano, perché l'85% degli uomini hanno di questi problemi, o di prostata o di vescica, e si sa, e perché tu devi vedere la gente che c'è facendo e devi vedere la gente che c'è ricoverata, tutto il reparto è sempre pieno. Una volta che uno viene operato, dopo pochissimi giorni ti mandano via, proprio perché c'è l'altro pronto che deve occupare il letto, e io ya, se sapessi, è proprio non venermi, ma anche giovani, non solamente persone della mia età, no, ma anche giovani a livello di 30 anni sto parlando, o classi, che si può immaginare, e nella vita purtroppo ci vuole fortuna e basta, tutto lì. Sì, ma già è così, già Giulio. I giovani sono parecchi che stanno morendo così, stanno morendo, no, io non capisco. Quando mai con tutti questi soldi che stanno accumulando per questa cura non riescono a cavarla? Per me l'hanno trovata e non la danno. Posso dare cose bollite sui clienti? Chi lo sa, la cosa non le dica, purtroppo è così. La natura alle volte ti riserva dei problemi veramente seri, e ognuno di noi si augura di non avere mai problemi del genere, perché sono cose che ti distruggono mentalmente. No, non ti credere che uno, anche se è una persona che fa finta di non pensarci, però quel pensiero ce l'hai sempre, è ovvio, purtroppo è così. Siamo nelle mani di Dio, purtroppo è così, e dunque lui già vuole bene a tutti, sia i cattivi che i bravi, io già. Quello sì. Vabbè, come alle donne, per il seno. Per noi è così, la prostata solitamente porta a queste cose, poi con l'andare del tempo, se non è curata, ti si forma il tumore. Sì, perché non fa altro che crescere, in realtà la prostata cresce e stringe l'uretra, dove appunto passa la pipì, e se uno incomincia ad esempio la notte a alzarsi più volte, e allora è già un problema di prostata. Oppure se vai a fare la pipì e la fai non con quel flusso normale, quello bello, forte, eccetera, rallenta il flusso, oppure addirittura hai delle interruzioni, vai, la fai e poi dopo un attimo si blocca e poi riprendi e la fai in due o tre volte. Sono tutte cose che purtroppo è un problema degli uomini, è come quello delle donne, le donne è quello del seno, è anche sotto le donne, lo stesso discorso, perché in quel reparto ci sono anche tante donne ricoverate o Gianni per lo stesso problema, che è uguale, identico a quello degli uomini, solo che loro sono donne e noi siamo uomini, ecco qual è il discorso. Avanti, Fra. Sì, quello sì. Guarda, a volte c'è da aver paura di andare a fare una visita, perché vai tranquillo, senti sano, bello, e poi è un rischio, ti danno quella notizia e ti cacca il mondo addosso, si cacca, per carità. È un casino, si ha paura anche di andare a fare certe visite. Lo so, ma è meglio che si scoprano prima le cose che dopo. Se si scoprono dopo magari andate in metastasi già. Sì, quello già è vero. Avanti giù. Sì, infatti la prevenzione è importantissima, quello sì. Ad esempio io per fortuna era circoscritta il mio problema era circoscritto, rimasto, cioè non ha oltrepassato le pareti della vescica, e se no sarebbe un problema veramente. Ma sempre ripeto, la prevenzione è importantissima, no? Non importante, è importantissima. Io la prima visita, ad esempio, ho incominciato quando avevo una sessantina d'anni, ma per la prostata andava bene fino a poco tempo fa, fino a un anno e mezzo fa, e forse è stato operato alla prostata, non me l'hanno tolta, io ce l'ho ancora, però me l'hanno resettata o praticamente me l'hanno assottigliata in poche parole già. E questo è un anno e mezzo fa. Poi successivamente si era creato questo problema nella vescica ed ecco che a quel punto purtroppo è così, la vita è, ripeto, la vita è tante volte crudele, però con un po' di fortuna e con un po' di buona volontà nel farsi curare e soprattutto nel sapersi tenere senza fare stravizi eccetera, e chi lo sa da cosa dipende. E può darsi che dipenda da tutto ciò che espelle l'urina. Sono per tante medicine, per dire che fa male ai reni, allo stomaco, eccetera, eccetera. E avevo mamma che c'aveva le ulcere allo stomaco dalle medicine che prendeva. Già lo credo. Ma tu devi vedere lì. Io quando è l'ultima volta che sono stato ricoverato a Ferrara, che è esattamente quando è? Fino a ottobre mi sembra, in ottobre mi sembra che ero lì, che mi hanno fatto appunto questo prelievo per il controllo, no? E vedi, avevano portato in sala operatoria, mi hanno preso una parte di tessuto, hanno preso per poterlo analizzare, ma tu dovevi vedere le persone che ci sono, e chi per i rini, e chi per la prostata, e chi per la vescica, e cos'è che di tutto, e capita, in tutte le maniere, gente giovane, proprio giovane, giovane, giovane, eppure i problemi che li hanno anche i giovani, capita, addirittura, oppure ai testicoli già, e c'era uno, poveraccio, la prima volta che mi hanno operato, c'era uno, dice io ce l'ho ai testicoli, questo problema qua, capita, dice, e allora me li toglieranno, che ne so, e sicuramente li hanno tutti i testicoli, io già, e sono problemi grandissimi, non problemi piccoli, problemi grandissimi. Vai Franco. Ma problemi anche a livello di coppia, poi, capito? Perché non raggiungono l'elezione quando c'erano questi problemi, eccetera, eccetera. Sì, dipende da quello che uno di quello che uno ha, sì, beh certo, se incomincia a togliere i testicoli, non lo so, ma anche la prostata, se ti tolgono completamente la prostata, nemmeno quello, anche quello non ce la fai più, a raggiungere l'elezione. Io tutto sommato sono stato fortunato perché me l'hanno solo resettata e grazie a Dio ancora va bene, per dire, no? E dunque, però, ripeto, ci vuole, come ho detto poc'anzi, ci vuole nella vita, ci vuole fortuna, e magari anche con la F maiuscola, vai tra. Anche con la C maiuscola. Diciamo per la prostata bene o male oggi, per quello che stavamo parlando poco fa dell'urino, queste cose qua, che ci sono anche le pastiglie che regola tutto quello lì, conosco che stanno prendendo le pastiglie, quindi le regola è l'urino perfetto come sempre, però sono quelli che sono più avanzati, magari come ha detto Gianni poco fa, che non si sono curati dall'inizio e arriva all'intervento. Certamente, sì, le pastiglie, sì, quello sì, diciamo che allungano i tempi e vai avanti, però prima o poi devi per forza farti fare l'intervento, per forza. A meno che uno lo vuole prima, speriamo di no, ma per dire no, perché le pastiglie sì, diciamo che aiutano moltissimo, però non risolvono il problema, perché la prostata continua a crescere ugualmente, e dunque continuando a crescere e succede quello che ho detto poc'anzi. Capito? Sì. Infatti io ne ho fatto una da poco di quelle visite che ne ho fatto ed è, diciamo che sembra tutto regolare, sembra, fino adesso, poi più avanti vediamo. Certo, è ovvio, sì, io ripeto, la prima visita per la prostata l'ho fatta che avevo 60 anni, una cosa del genere, perché sono passati già quasi 18 anni, perché io a aprile ne faccio 78, se che ti puoi immaginare, per dire, no? Anche a me mi hanno portato avanti le cure quando mi diceva anzi, non erano nemmeno cure di pastiglie, eccetera. Beh, la prima volta mi avevano dato degli integratori a forza di potassio e magnesio, mi sembra che fossero, adesso non mi ricordo bene, una bustina era, che poi costava anche un pochino questa scatola di cose, perché la sanità quando non te le passa, sono degli integratori solo. E dunque tutto era andato bene per anni, poi sono ritornato a farmi di nuovo visitare e allora mi avevano prescritto la pastiglia e per un certo periodo di tempo, adesso non mi ricordo per quanti giorni e così via, e tutto andava bene, sempre bene. Però alla fin fine man mano che passano gli anni, quella aumenta sempre di volume, aumentando il volume succede quello, stringe l'uretra e allora i problemi ci sono, e allora si è costretto per forza ad andare alla visita, e dopo la visita pensa che mi aveva visitato, ma dice non è una cosa urgentissima, prima di ricoverarmi per fare la prostata, no, non è una cosa così urgentissima, adesso lo metto in vista e poi lo chiameremo lui. Grazie a Dio, sai quanti mesi sono passati prima che mi chiamassero? Sono passati quasi 10 mesi, quasi, senza quasi, e mi hanno chiamato dopo. Oppure dice se la vuole fare subito, noi la possiamo fare, però deve pagare 4.000 euro. Vabbè, adesso io che penso, gli ho detto, e vediamo un po' come cosa fare. Allora sono andato dal mio dottore di casa, dal dottore di famiglia, gli ho portato tutte le analisi, tutte le cose, ho detto sì, ascolta, visto considerato che non è una cosa più urgente, per quale motivo vuoi spendere questi 4.000 euro? Lascia che ti chiamino loro e te la fanno gratis. E così è stato, fra. Quello già è vero, lui. Aspetta, 4.000 euro, non sai niente se credi che non ti vale di una oiuglia. No. Ma che cosa vuoi fa? Scusa, giusto, cambio un attimo discorso, perché è una cosa Gianni. Gianni, ma l'altra piazzata l'hai? La piccolina? No, no, non l'ho piazzata, l'ho sceso il cavo, l'ho buttato giù, l'ho dato a Luca che gli serviva, e l'ho dato a lui. Ce l'ho sempre conservata nell'armadio. Posso? Vai. Caglietti, si credi che Caglietti di Nari cacca, scusando il termine, per 4.000 euro. Luca, purtroppo è così. Produttori gusta, non è uno scherzo. Questa se la volevo fare subito, ma se io sarei stato costretto l'avrei dovuto spendere per forza quelle 4.000 euro e farmele fare subito. Perché ti mettono in lista e quando. E c'è gente che sta anche 2 anni prima di chiamarle, si può immaginare. Io bene o male sono stato 9 mesi, 10 mesi quasi e poi alla fine mi hanno chiamato anche perché ho sollecitato eccetera eccetera, però c'è gente in attesa anche di 2 anni o Luca, non ti credere che quando vai lì, lui, ad esempio adesso mi hanno fatto una ricetta stamattina per poter fare la visita fra 3 mesi di nuovo, la stessa visita che ho fatto stamattina e mi hanno fatto loro l'impegnativa, io adesso devo andare al CUP e mi stabiliscono loro la data quando poteva fare, lo si dice Agostino, e lui se sapessi al CUP c'è sempre niente e poi ti possono dire non c'è posto e dunque ti rimandano dei mesi, ma io la cosa dell'ospedale che entro 3 mesi devo fare quella visita, dunque non penso che non mi diano l'appuntamento, ecco come ho Luca. Io sono a marzo dell'anno scorso aspettando. Ma che tipo di visita hai fatto Giulio per pagare 4.000 euro? Che tipo, cosa era? Quando dovevo fare l'operazione alla prostata, dovevo fare. E ho aspettato 9 mesi. 9 mesi e 20 giorni, una cosa, quasi 10 mesi proprio barato. Poi tra una cosa e l'altra sono passati anche 10 mesi perché mi hanno ricoverato, sono stato la prima settimana, non mi hanno nemmeno guardato, nulla. Ero lì in vacanza, si è ricoverato, una noia che non finiva mai. perché poi avevano deciso di fare l'operazione e invece arrivata una urgenza proprio nel periodo, che nel giorno che toccava a me, e mi hanno rimandato ancora di un'altra settimana, ci ho buttato 15 di lì senza avermi fatto niente. Poi mi hanno operato nel giro di 4-5 giorni, mi hanno rimesso e ciccia. E così funziona, Luca, funziona così, purtroppo è così. Se fossi stata la donna ti avrebbero fatto il cesario, cazzo, non mi mesi più. Oh, vabbè, è vero, se uno vuole fare una cosa urgente, tipo io qua la visita alla schiena, ma adesso quella della vola di da Urigo, se la vuole fare subito il pagamento, se non deve aspettare a gennaio, no, a gennaio già non ce n'è fretta, adesso l'ho fatta e non ho pagato niente. Io invece ho pagato 140 euro per fare la risonanza magnetica. Quando la regione non le dà la convenzione a questi dottori che fanno la radiografia, eccetera, anche se hai la cosa, come si dice, insomma, se hai diritto a farla senza pagare, devi pagare poi tutto, se vuoi fare la visita. Però devi aspettare a quando c'è di nuovo la convenzione e che te lo fa la sanità direttamente. Tutto lì. E vabbè, comunque mi hai preso l'appuntamento adesso. Luca. Vabbè, purtroppo le cose si pagano. Tu pensa, anche i dentisti sono cari, io ho fatto dei preventivi da paura. Cioè che alla fuori lo paghi, io ti ho detto 8.000 e qua ne voglio il doppio. Dice, prima di andare fuori vieni a fare una visita qua, per dire, no? Cazzo, il doppio. Se gli dai 8.000 euro che si rimiglia, te ne dico, 8.000 euro in più sono tanti, Io non ho speso 12. Lo so, per una visita normalissima, quello che c'è lì dalle parti di Piazzale Segni, quel radiologo c'è lì, ma una visita normalissima però, meno niente di particolare, mi sembra che vuole 18 euro, vuole, a pagamento. Se invece vai in via Roma, da Mudas o come si chiama, ti fai tipo 60, per dire no, perché vedi bene che da uno all'altro c'è anche quella differenza. Se uno invece va quando c'è la convenzione sanitaria, allora sei esente, non si va a pagare niente, però bisogna andare in quel momento, capito Luca? Avanti fra. Però queste cose è strano, anche che quando vai tu all'ospedale e ti stanno facendo la visita ti dicono che lei deve fare quest'altra visita, deve prenotarsi di là, se no dice a portare a pagamento, e l'indirizzo che ti dà quel medico è da lui stesso, in un altro ambulatorio a conto suo, ma ti sembra giusto per pagamento, tu stai lavorando lì e c'è anche uno studio. Poi ti fanno pagare anche lì all'ospedale, ti fanno la visita e si fanno pagare di più. Perché come privato, come ambulatorio privato, purtroppo è così, e voi da voi va, d'altronde siamo in Italia e questo traffico lo fanno, sì, certo che lo fanno, ma comunque, avanti già. Io da poco ho pagato 140 euro per fare la risonanza magnetica, capito? Perché mi serviva per questioni di pensione, quindi dovevo farla per forza. E ho provato a chiamare al CUP e mi hanno detto che in tutta la Sardegna risonanza magnetica non c'è posto. Dovrebbe farla a pagamento, se no non c'è posto per il momento. Adesso devo fare anche l'ecodoppio. Per fare quello lì lo stesso non c'è posto, è tutto a pagamento. Sono andato al cardiologo, telefono, ho detto, saputo che siete convenzionati con le sede. Sì, però momentaneamente non abbiamo posti. E pagando invece, pagando anche stasera alle 3, sono andato alle 3, non vedo un'anima viva, Giulio, a dire che c'è una persona. Sì, fanno così, perché non lo sapete. Certo, le colopre, visto, lo fanno lì a San Pietro stesso, dalla clinica del padre che è morto adesso lui, del padre di Maria di Coso, di Elisabetta Canazzi. Le colopre lo fanno lì. Già lo so, sì, già, purtroppo è così, cosa vuoi fare? Vai tu e dici no, e non ti vai a dire di no. Purtroppo loro ne approfittano e magari ti danno un appuntamento con la macchina stessa dell'ospedale. E a me è capitato qualche anno fa, dovevo fare mia moglie doveva fare il quadruple e gli avevo dato l'appuntamento, è arrivato il giorno dell'appuntamento già, e il caso strano, la macchina era guasta, ma dopo 7-8 mesi però questa storia mi, dopo che è arrivato il giorno, la macchina era guasta, e allora? E allora dice deve fare di nuovo la cosa, prenotarsi di nuovo e aspettare chissà quanto. E allora vabbè vai, mai di vecchi e mai dannuti, ho preso, io andiamo a pagamento, adesso pagamento l'ha fatta lì, per dire, no? Nella clinica del padre di Elisabetta Cannabis, a San Pietro sempre, capito o Luca come funziona la vita? Luca? Ehi, dai, già, dai, adesso sto 10 minuti, ora 25, dai. Nel caso dove rimanere un po' a casa riprendo a casa se ci siete, ma sarà impossibile. Io arriverò verso le 8:30 a casa circa, dai. A dopo, già, se no domani, ciao. Ciao, ciao, era Giulio, non ero io. Buona serata, ciao, buona continuazione. Chiediglielo se a fine settimana, questa settimana ti manda. Come già? Se a fine settimana puoi venire per quella cosa là. Adesso neanche ne parlo, dai, e ci facciamo un salto, va bene. Ok, ok. Andava, riprendi Giulietta. Ok, rilasciamo Franco, avanti Franco, che da un po' in parcheggio. Sì, bello e bello, sono in Giulio. sì, io le conosco, l'ho fatta da poco, l'ho fatta, e me l'hanno data lì sulla tavola, e l'ho provata subito, l'ho provata. Anzi, non pensavo, io pensavo che ci passassero mesi, invece me l'hanno data subito, subito. Io ho telefonato un paio di mesi fa e mi hanno detto che non ce n'era, di posto, capito, sarà 2 mesi fa che ho telefonato. E adesso mi devo fare rifare la ricetta perché mi è scaduta la come si chiama? E vabbè, già mi hai capito. Impegnativa, sì, quello è scavo, mi sembra che ci hanno tempo 6 mesi, mi sembra che ci hanno quelli di tutto. No, io adesso l'altro giorno ho fatto la visita qua a San Camillo della ipertensione. Poi piano piano, adesso mi hanno prenotato, lei stesso mi ha prenotato una visita al cuore, mi ha prenotato sempre lì, e me l'ha tutto lì, mi ha fatto, impegnativa, tutto. Ah, vabbè, tu te lo stai facendo tu per tua, per fare le visite tu per prevenzione oppure perché c'è qualcosa? No, è solo prevenzione, io ci vado ogni tanto. Vado lì a controllo, elettrocardiogramma, tutto mi fa. E sono sempre sotto controllo, anche per le cose diabetico, sono sempre sotto controllo. Infatti per la diabete sto andando all'Alghero, però non sono diabetico. E come mai stanno lì? Perché a Sassari non ho trovato niente. Dai, vado in bagno un attimo. Uscire. Un tiro mi sembra, io ho preferito Alghero, mi viene meglio. Ah beh, certamente che sì. Io sono diabetico, invece le faccio lo stesso, le visite, ogni tanto l'ho fatto con la gnocchi, adesso ho fatto l'elettrocardiogramma, e me le fa fare ogni 6 mesi, ogni anno, dipende. Sì, infatti io adesso devo andare a novembre, a luglio devo andare di nuovo. E mi sto preparando tutto perché intanto i documenti, tutte le visite che faccio in ipertensione e lì a cosa diabetico, tutti e 2 medici vogliono vedere tutte e 2 cose, vogliono vedere tutto. E io sto facendo tutte le visite, le sto facendo adesso, piano piano, a una, a quando arrivo di andare all'Alghero, sono tutto in mano. E solo che poi, mamma mia, alla fine... ha sì da fare tutte queste visite qua. Io le faccio parecchie lo stesso. Ma poi alla fine dici basta, non ce la faccio più con queste visite, cavolo, e fine qua, e fine là. E ti sprechi una mattinata, perché guarda, devi fare una visita, devi già calcolare che la mattinata l'hai persa. Sì, sì, scusa giù. Sì, quello già è vero, se questa cosa ti perdi la non solo la mattinata, tutta la giornata ti perdi. Però io guarda, ti dico una cosa, al centro di abitico di Alghero stanno veloce, velocissimi, come arrivi ti chiamano, poi come ti presenti, poi 5 minuti ti chiamano, ti fanno, scrivono tutto, ti pesano, ti fanno tutto quanto, poi ti fanno accomodare di nuovo in sala, in sala, altri 5 minuti ti chiamano, vai dal medico, va veloce lì, in mezz'ora fai tutto quasi, fai. Qui a San Camillo è lo stesso. È lo stesso, come arrivi, te gli dai il foglio, ti chiamano subito a parte la misura della pressione, a parte il cardiogramma, tutto quanto, poi ti chiamano, vai di nuovo in sala e ti chiamano per la visita proprio del medico, ti chiamano. E poi veloce lo stesso. Però queste qua proprio, file, sì, massimo mezz'ora, fai 35 minuti là. Io invece ho aspettato, non siete di abiti che ho aspettato anche ore, anche se c'è l'appuntamento quasi sempre, diciamo non aspetto, vado all'ora giusta, però ti chiamano sempre un po' più tardi, ogni volta, e a volte poi se mi deve fare la medicazione al piede, ui, per carità, meglio niente, non gli ho più detto nulla perché ogni volta mi fa perdere un bel tempo, mi fa di male, ogni volta col bisturi, ma taglia tutto il callo attorno, me lo fa in sangue, ui, mi fa vedere le stelle. È un casino, vabbè, glielo fate spesso. Avanti Giulio. Sì, purtroppo è così, già è meglio, già è meglio ricco e sano. Vabbè, comunque tutto si può avere nella vita, siamo proprio... Siamo sulla terra e queste cose purtroppo succedono alle persone. Ma comunque, tiriamo a campare. Fin quando ci siamo, tiriamo a campare. È normale, no? Tanto se ti preoccupi è ancora peggio. Certo tu mi dirai, ma il mondo si preoccupa per forza. Non so. Però bisognerebbe cercare di non pensarci e di cercare di tirare avanti meglio possibile. Ma comunque, così è già, la vita è così, e tante volte è crudele. Ma che cazzo che succede tutto a me? Adesso ho questa gamba così, dall'altra parte ho due ulcere nel piede, perché adesso non sono una, ne ho due. Tutti i piedi secchi, non fa toccarli, se c'è il callo vai a toccarlo appena appena, subito ti si fa in sangue e più l'infezione, un casino qua. Ti devi lasciare i calli perché se vai a toccarli ti si staccano, sono attaccati alla carne, quando tu vai a togliere il callo si strappa dalla carne e ti fa uscire il sangue. Sì, lo credo, purtroppo, sai cosa vuoi fare? Se fossimo stati invece fatti di ferro, probabilmente non avremmo avuto mai niente. Invece siamo fatti di carne e ossa, e allora ogni tanto siamo pizzicati. Così è fa. E no, giù, di ferro sono irruginato da voi, sono bloccato come penso. E mi è stata la muscoltura uccidata, e ciccia, è una verniciata. E avremmo tirato a campare. Purtroppo uscire da dove va. Oppure meglio lasciare il rossinato, va. Allora come metà di più forti. Avanti già. Perché anche il ferro si arrugginisce, te lo stavo per dire io. Si arrugginisce il ferro. E purtroppo siamo fatti così di carne di ossa. E non c'è niente da fare. Tutte le stribizie che diremo lui. La vecchiaia è carrogna. Quando stavamo lavorando c'era Marco. mi dice sempre, dai, ti ha baitato a me faccia, ragazzi, tu devi sciancarti, no? Ti ha baitato a me faccia, e mi guarda di sì. Ma basta due con moletta per il GRC, ancora vedi tu. Anche a me lo dice. Anche a me lo dice che ci vuole la bomboletta CRC, uia, uia. E cosa devi fare? Io c'ho una gamba e lui c'ha l'altra, uia, uia. Dico ma che zia Maria Barini. Vabbè, lui ultimamente non riusciva più neanche a fare niente, non è mai capito questa galassia. E poi c'era un periodo che più stava seduto e più gli faceva male. Lui stava sempre andando. 8 ore camminando, mamma mia, non si fermava mai, a voi credete di più. Siedi da una parte, lo faccio io questo. Oh, non mi posso sedere, devo andare. Quello ce l'ha sempre di vizio, se per dire andiamo a volte a fare la spesa insieme, mi tubone di una parte, foto tutto io. Ma perché? Già ce la faccio, con le mani già ce le ho buone, grazie a Dio. Non è bagissimo, non ti preoccupare, faccio tutto io. E vuoi fare tutto Edo sempre, è fatto così e basta. Oia, si mette a cantare, guarda che mare, guarda che luna, pure la gascia, fate ridere il commesso. Viaggia Edo, vai, che sono un uomo. Per i problemi che c'ha adesso, c'ha un bel umore, solo per quello, ma sai cosa lo volevano bene giù tutti quanti, solo per quello, faceva ridere, cioè era, se uno era incavolato, è più quasi a ridere quasi, anche era di umore buono, era in gamba proprio. Va bene, avanti giù. Ok, beh, purtroppo i malanni ci sono sempre, non usava. Tu pensa già, tu adesso tu stai parlando del piede tuo, eccetera, che sei già 2 anni così e ancora non sei riuscito a guarire bene. Forse 3 mesi quasi, là. È stato operato mio fratello al femore. Gli hanno, praticamente lui aveva questo dolore, gli si era consumata la cartilagine nel femore, no? Un dolore fisso, continuo, cioè che non lo lasciava, pensa che era col bastone, anche lui era col bastone, perché non riusciva più a reggere, e nonostante tutto lavorava, però era un lavoro che poteva anche fare, perché lui era al parcheggio lì di viale, come si chiama, di fronte all'ospedale, no? Il parcheggio a pagamento, quello grande. L'avevano messo in lista per chiamarlo per fargli l'operazione, sai quanto tempo è passato? Roba di 1 anno e mezzo prima che lo chiamassero per fargli l'operazione. 2 mesi e mezzo fa, una cosa del genere, l'hanno chiamato. E intanto a Cagliari è dovuto andare, non a Sassari, a Cagliari. La gamba, l'osso, gliel'hanno tagliato, proprio tagliato loro con seghetto. E poi gli hanno inserito una specie di ferro lungo dentro l'osso, gli hanno inserito a forza di martellate, naturalmente lui era addormentato, non ha sentito niente. E poi dall'altra parte c'è una specie di cerniera, cioè un coso rotondo, tu immagini quando stringiamo il pugno della mano, praticamente la mano diventa rotonda se vogliamo, no? È così. E dall'altra parte c'è l'altro pezzo della cerniera, chiamiamolo così, in modo che potesse articolare, no? E infatti l'hanno operato e era ancora oggi, ha qualche problemino, però è guarito, diciamo che è guarito quasi del tutto. Però mi ha fatto ridere l'altra volta, perché dice, ma lo sai che quando mi muovo sento il cigolio della cerniera? Ma davvero? Sì, è vero, mi già, sento il cigolio della cerniera. E gli guardo, ma un po' quel cigolio sì. Per dire, ho scherzato chiaramente, però lo so che ha sofferto moltissimo per quell'operazione, o Gianni. Lo so, io la conosco quell'operazione, l'ho anche vista su internet, ho visto tutto quello che ti fanno, ti tagliano il muscolo in due, eccetera. Comunque mi è sembrato che qualcuno si è affacciato poco fa e non l'abbiamo fatto entrare. Avanti, se vuole entrare quel qualcuno. Sì, io sono. Vi ho detto anche che la vecchiaia è carrogna. E io già l'ho sentito, però stavano parlando. E la vecchiaia è carogna, e quelli che muoiono da giovane non è peggio. Io sono che hanno fatto meglio di voi. Vabbè, dai, sopportiamo un attimo, cosa devo fare? A dirtelo io, perché sono caduloni tutta la vita. Oh, ia, povero me. Mi ha visto Natalino come cammino io. Non ce la faccio manco più appoggiare la gamba. Quando è venuto Franco a casa quella volta a portarmi quella roba, avevo preso Lucchi e un po' ce l'ho fatta senza bastone a camminare, ma se no, devo stare sempre con questo antidolorifico, perché sennò non riesco a stare. Anche io non cammino col baccolo, ma cosa, quando ti viene i rotuloni, ma fai forza, A me stamattina quando ho detto ai, che stavo aspettando la testa, mi è venuta la fitta fortissima, ma forte, mia, la raggio bianca che si è pure passata una lana, se no, bisogna andare a tirare. Ma è distanza, se le cose vero, vabbè, siamo lì. E dunque, anche lui ha avuto questo problema, ha avuto e si è dovuto per forza operare, perché non è possibile, perché non poteva stare più né di giorno né di notte, anche addormentato non riusciva più a dormire per il semplice motivo che aveva sempre questo dolore fisso e ha dovuto per forza, sì, ha sofferto, l'operazione ci ha sofferto abbastanza, perché dopo che si è svegliato ha sentito i dolori, però purtroppo bisognava farlo, perché almeno adesso sono dolori non ne ha più, e sta ancora diciamo facendo non più fisioterapia, però ancora non è perfetto al 100%, ma sta camminando bene, non ha più i bastoni eccetera eccetera. Prima era con le luci, era andata lì e d'altronde, e cosa poteva fare, se no? Ed era un anno e mezzo di vista, un anno e mezzo in attesa che lo chiamassero. Vai Natalia. Sono schifo, e Gianni non c'è la stessa cosa. Ma io Natali non ci riuscirei a fare manco il parcheggiatore, perché io in piedi non riesco a stare più di tanto, mi devo sedere, perché sennò guai. E invece lui se lavorava perché non c'è veduto i furti come ce li ho io, sennò non ce l'avrebbe fatto. Io non riesco a stare in piedi, Giulio, proprio, cioè se io sto in piedi più di tanto mi fa malissimo, devo sdraiarmi. Io sto bene solo con il catto e nemmeno pure, a volte anche con il catto mi fa male. Certo, ci credo, capita, purtroppo i dolori ci sono, perché lo so che ci sono, e cosa vuoi fare? Infatti anche mio fratello sta tentando se riesce a avere uno scivolo per la pensione, perché mi sembra che gliene mancano 2 anni, per cui sta tentando anche lui, ma sarà molto difficile che riesca ad ottenere la pensione, sarà molto ma molto difficile. Ancora con le malattie, amico, non è rientrato al lavoro, e lavora almeno un altro paio di mesi prima di rientrare in perfetta efficienza, per dire, no? Però, anzi, ti dirò di più già. L'hanno visitato anche l'altra gamba, gli hanno detto fra una decina d'anni, dice, dovrò fare anche l'altra gamba lì così. E te lo immagini già. E non è bella allegria, amico. Avanti Franco. Fatti dire da Natalino cosa mi hanno detto Alghero. Ecco, un attimino, scusate che devo mollare perché mi stanno chiamando per cena. Ciao Giulio, dai, buona cena a voi tutto quando lo fate, ciao anche a Gianni. Ciao Natalino, ben ascoltato dopo tanto, ti ascolto basso, però ti sento. Ci sentiamo alle prossimine, sarà una per un'altra volta Natalino. Ciao, buona sera a tutti, riprendi Giulio e fai girare. Ok, ciao Fra, grazie per la chiacchierata, dai. Sì, la sera mia adesso ormai sembra che la frequenza si stia risvegliando, e dunque 4 chiacchiere ce le facciamo sempre. Vabbè, ciao Fra, grazie ancora per la chiacchierata, salutoni e buona cena, dai. Avanti Natalino per salutare Franco che sta chiudendo. Ciao Fra, buon proseguo, buon tutto, riprendi già. Ehi, ciao Fra, ci sentiamo, buon corretti, dai. Avanti Giulietto. Ok, vabbè, non dire no, è Natalino lo stesso, non ho avuto problemi, ragazzi, se c'erano problemi Natalino c'erano problemi seri stesso, non era bufonatura, no. E lui è ancora giovane, non ha certo la mia età. E dialoguino, per cui come vedi, no, quando c'è da ammalarsi non si guarda l'età, già, no, anche i bambini si ammalano, purtroppo è così. Vabbè, avanti la stanza. Dai, sto mangiando, dai. Ci sentiamo, rimango in ascolto e dopo farò QSC, dai. Alle prossime, saluto a tutti e due. Ciao Natali, buona carica. Ok, ciao Natali, ciao, buona carica anche a te. E così è già, e anch'io mi ho fatto un paio di passaggi e poi è ora di cenare, ho Gianni, sono già le 8:20. Per cui tu il cane deve portare? No, glielo portare mio figlio, non ce la faccio, non ce la faccio. Glielo porta Marco adesso, andrà lui. Porta a Tyson giù, Marco. Deve scendere adesso. E ve lo porta lui sicuramente, perché non ce la faccio qua. Io ho visto tutta l'operazione, Giulio, ho avuto il coraggio di andare a vedere tutto il filmino dell'operazione. E ho visto quello che fanno, lo avvitano praticamente, cioè è una specie di ferro a elica, te lo entrano dentro l'osso, tagliano la testa dell'osso, entrano dentro l'osso questa faria elica e dall'altra parte incassano nel bacino questa palla tipo similare alla testa del femore, la diciamo, e poi cuciscono il coso, cuciscono il muscolo e poi ti cuciscono tutti i punti, dai. Sì, e beh certo, io non so se tu lo conosci, quel bombolaio che c'è in via Murra, no, via Montello mi sembra, no, non è via Montello quello, cos'è quello? Via Gabriele Annunzio, sì. C'è il bombolaio che anche lui ha avuto la stessa operazione, così al femore, eppure oggi grazie a Dio sta lavorando, sta bene, porta sulle bombole anche al terzo, al quarto e al quinto piano sulla schiena, nonostante che lui ha avuto questo tipo di operazione, però sta lavorando, sta andando avanti. Sì, alle volte dice magari mi stanco di più di prima, perché è giovane, Antonio è giovane, cosa fa Antonio? Avrà se no 55 anni, penso, non di più. Se che ti puoi immaginare quando ti capita una bomba da 25 kg, capita, a portarla su magari al quinto piano, se non c'è l'ascensore, già, uno che ha avuto un'operazione del genere non c'è da stare proprio tranquilli per niente. E fa malissimo a fare quel lavoro. Perché io al dottore gli ho detto quanto poteva, che durata aveva una protesi al femore. Mi ha detto, può essere 10, 30 anni, 2 anni, dipende da come si tratta la protesi. Se tu carichi e sforzi il femore, la protesi si consuma prima. Se tu non sei pesante, non vai sotto sforzo, non fai lavori pesanti, eccetera, il femore, la protesi dura anni e anni, te ne dimentichi, muori prima tu della protesi. Sì, beh certo, ma è ovvio, se la protesi viene maltrattata, per così dire, è chiaro che prima o poi ci deve ritornare, prima o poi è così, purtroppo cosa vuoi fare? Questo qui è il suo lavoro, l'ha fatto da sempre, da tantissimi anni, e cosa deve fare? Per vivere purtroppo deve fare quel lavoro lì, non so fare altro, anzi non può fare altro. Il negozio è suo, in società con un'altra persona, col cognato praticamente, dai, con la moglie, cioè, con la sorella, no, con la sorella, col cognato, con la sorella in società, sicché è costretto a fare quel lavoro. Sono in due, infatti, che portano le bombole lì, sono i due cognati, però, ripeto, Antonio è quello più giovane e nonostante tutto è costretto a continuare a fare quel lavoro. Cosa può fare? Per campare bisogna lavorare. Giulio, io l'ho fatta la visita al Ghero, no? E mi hanno detto che anche l'altro l'ha operato, perché anche quello è preso dal... Non dico che sia consumata del tutto la cartilagine, però sta cominciando a consumarsi, e quindi anche a me mi hanno detto che dovrò fare tutti e due. Purtroppo figlia, purtroppo. Speriamo che non ce ne sia bisogno, perché se no, già lo sai, è una cosa... Però se uno è costretto lo devi fare per forza. Vabbè, già, dai, sono le 8:25, dai. Scendo giù, a cenare, perché sicuramente adesso mia moglie sta aspettando che io scenda giù. Ci sentiamo domani, dai. L'antenna l'abbiamo collaborata, se che va bene, tutto a posto, tranquillo, sia la trasmissione che la ricezione. E ci sentiamo domani, ok? Ciao già, ascolto fino a mio, grazie per la chiacchierata, a domani, ok? Ciao Giulio, dai, buona serata anche a te, buona continuazione, ci sentiamo domani, ciao! Ok, ciao.